è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Lei sa farmi venire la voglia già dal modo col quale si spoglia, pian pianino si sfila il vestito, in due pezzi fa cose da pazzi. Lei mi dice, dai spegni la luce, poi ad un tratto si tira giù tutto, io riaccendo e all'improvviso mi trovo sotto le lenzuola. Ma lei per fini canterebbe, per esempio? Io canterei per tutti, basta che mi pagano. Vieni, vieni, vieni cara, vieni sotto le lenzuola. Non mi... Luca Telese, come stai? Benny e Vitetta, questa è l'orchestra che si esibisce questa sera alla festa di Mirabello. Io sono indignato, questo programma non c'è più un tessuto culturale, non si parla più di patria, non sento più valore come famiglia, non sento più. Non si parla più di cose serie soprattutto, si parla solo di strunzate. No, ma non dirlo così, dai. Come no? Perdiamo il nostro ascoltatore. No, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Questi sono Benny e Vitetta. Benny e Vitetta sono Vivetta, Benny e Vivetta, mi correggono. È un'orchestra straordinaria, come puoi sentire da queste note, scelta come seconda serata per la festa di Mirabello di Gianfranco Fini. Adesso io voglio capire se il sangue dell'Emilia Romagna che si innerva su Futuro e Libertà, ma ci sarà questa riconciliazione tra Fini e Berlusconi, come si dice, o comunque un tentativo di Berlusconi di portare via più finiani possibile attraverso una rimodulazione del processo breve? Come finirà? Tentativi di Berlusconi in tal senso ci sono e non finiranno mai. Invece sono più scettico sul fatto che si possa arrivare a un accordo. I finiani consapevolmente allungano il brodo, temporeggiano, si dividono in falchi e colombe. Devo dire che da questo punto di vista la separazione fra Bocchino e Urso è un gioco di ruolo fantastico, cioè sono come Pazzini e Cassano, sono come Pruzzo e Proasca, insomma è una cosa che non si è mai vista prima se non nel calcio. Pruzzo e Proasca. E Pulici e Graziani, sai, quelle coppie in cui uno fa il cavallone matto e l'altro il ragioniere di concetto, no? Sì, ma Picella che dice io canto anche per Fini se paga, questa è bellissima. Quella è stupenda, infatti, ma non credo che Fini ne approfitterà. No, però invece ti dico che secondo me quindi non ci sarà una riconciliazione, ed è l'unica cosa strana è che Berlusconi, dopo quel famoso vertice con la Lega, abbia frenato, abbia cambiato rotta, forse anche lui aspetta il momento per colpire. Io voglio Edoardo Ballaman questa sera, che mi deve rispondere al telefono, perché Edoardo Ballaman è il presidente della regione Friuli Venezia Giulia. È stato accusato dalla Corte dei Conti di aver utilizzato la sua auto blu per andare per scorazzare qua e là per motivi non istituzionali. È uno che parla sempre, spesso, di qualsiasi cosa. Di fronte a questa inchiesta la Corte dei Conti non vuole parlare. Ma guarda caso. Canzone. Venire la voglia. Bene, primo ospite della serata, caro Luca. Con grande piacere ospitiamo Alessandro Gaucci, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Come sta? Bene, lei? Non c'è male. Dove si trova? A Roma, a Roma. A Roma. A Roma a casa sua, no? Sai, noi vogliamo sempre sapere dove sono gli ospiti, così per localizzarli. Sì, a Roma a casa mia. Sì. A Roma a casa sua. Senta, Io voglio capire una cosa, al di là della vicenda giudiziaria, insomma non vogliamo entrare nel merito perché lì decideranno i giudici, no, di queste cause civili che si accavallano, suo padre contro Elisabetta Tulliani, e Tulliani pure contro suo padre, eccetera eccetera. Lei nei giorni scorsi ha detto delle cose insomma interessanti da alcuni giornali, soprattutto una cosa: mio padre è stato fregato dal clan Gaucci. Cosa significa questa cosa? Ce la spieghi bene. No, dal clan Gaucci no, dal clan Tulliani, mi scusi. No, ma significa che purtroppo, come ben sapete, c'è appunto una causa civile in corso proprio per spiegare quelli che sono stati, secondo sempre quello che dice mio padre, ma credo che tra di tutti, anche soprattutto a detta nostra, che siamo i suoi figli, avendo vissuto le cose in prima persona, qualche cosa che non è andata bene sicuramente c'è. Adesso quantificare gli eventuali danni o cose non spetta a me farlo, e soprattutto non avendo vissuto io la vita privata di mio padre con Elisabetta Tulliani, per fortuna non... Perché non, lei dice non, per fortuna? No, per fortuna, perché mi sembra che, insomma, per come siano andate le cose, poi la fine non è stata delle migliori, insomma. Senta, lei ha detto che lei ha vissuto questi 6 anni e mezzo, sono stati un inferno. Che vuol dire un inferno? Questi 6 anni e mezzo passati da suo padre con... Penso che è stato forse il periodo, sia da parte mia che da parte di mio fratello, più brutto nei confronti dei rapporti, nei confronti con nostro padre, perché purtroppo per aver vicino queste persone, questa famiglia, ha sicuramente inciso sui nostri rapporti, e quindi non avevamo più il solito Luciano Gaucci, persona stupenda vicino, ma avevamo una persona completamente diversa e trasformata. Cioè, lei può dire che siccome aveva perso la testa per una ragazza, questo credo, cioè, trasformata che in che senso? Che possa succedere a tutti, purtroppo. No, è sì, successo a lui e può succedere a qualsiasi persona sulla terra. Anche lei perde la testa, tutti noi perdiamo la testa per qualche donna, figuriamo. Certamente può succedere una cosa che può succedere a tutti quanti noi, quindi non è che sto giudicando l'operato di mio padre, però comunque è un dato di fatto quello che poi di fatto è successo. Ecco, però la cosa che, al di là, ripeto, dei particolari, quante case intestate eccetera, secondo lei alla fine quanti beni erano di suo padre e sono stati intestati alla famiglia Tulliani? Per esempio la casa dove vivono... Sono cose loro, perché purtroppo non saprei dirlo con esattezza. Sicuramente tante cose, perché comunque sia, quando mio padre cominciò la storia con Elisabetta era appena laureata, e quindi non credo che venisse da una situazione di lavoro tale che le permettesse di avere chissà quali benefici personali, quindi credo che non sia, insomma, farina nel suo sacco quello che poi dopo cioè le proprietà della sua famiglia, il patrimonio poi della famiglia Tulliani, questo senz'altro. Ma sono solo, non sia so solo... se tutto, se tutto può essere scaturito dallo stare insieme con mio padre o con altre cose successive, però sicuramente moltissime cose son venute da fare con mio padre. Per esempio la casa dove vivono adesso Elisabetta Tulliani e Gianfranco Fini, lei non vuole entrare in questo dettaglio, ne sa qualcosa? Non voglio entrare in questo dettaglio perché i fatti, ripeto, credo che ne sia ovviamente per conoscenza mio padre, e magari le persone che in quel momento erano più vicine a lui, in quanto poi io, vivendo a Perugia e lui a Roma, avevamo l'opportunità soltanto di vederci diciamo la domenica allo stadio durante le partite del Perugia, però durante la settimana ognuno viveva a casa sua, quindi non avevamo soprattutto, ripeto, in quella circostanza lì un rapporto che ci frequentavamo moltissimo. Luca, io ho ascoltato queste parole, ho letto anche le interviste Alessandro Gaucci con molta sofferenza, cioè ho percepito molta differenza, ed è una cosa che rispetto. Molta sofferenza, dici? Sì, cioè c'è una sofferenza nell'intervista. Ora non so se ho letto un accenno al fatto che suo padre, ai suoi occhi, non è più tornato quello di una volta, è così, no? L'intervista. No, diciamo che sicuramente è una persona che che in quel periodo lì era veramente cambiata, poi ma cambiata in peggio, perché... Ma sbaglio, anche... lei ha detto anche adesso. No, adesso devo dire è sicuramente migliorato, tant'è vero che poi di conseguenza anche i nostri rapporti sono cambiati in meglio, perché quello lì del periodo con la famiglia Giuliani, ripeto, è stato un momento in cui non solo noi figli, ma anche tutti i collaboratori di mio padre, insomma, vivevano una situazione un po' particolare per via della vicinanza di queste persone che in alcuni momenti sinceramente non... Ecco, ma lei come la definirebbe la famiglia Giuliani? Detto questo, io... Una famiglia, adesso Luca, torno subito da te, una famiglia, vuol dire, molto attenta alle proprietà di suo padre, che si interessava soprattutto di quello, cioè, come la definire? Io guardi... Parlerebbe di voracità, per esempio, o no? Non mi va di fare polemiche ulteriori, però è sicuramente una famiglia che ha abbassato tutto sugli interessi, cercando di sfruttare gli altri, questo è... mi sembra abbastanza evidente. Luca? Cioè, c'è un punto che però non va bene in questa storia ed è la tempistica. Cioè, mentre Alessandro ha tutto il diritto di dire io ho rotto con mio padre all'epoca e quindi ora posso rivendicare, come dire, questa forte criticità su quel rapporto, su quella famiglia, su quella donna, a me un po' mi spaventa che Gaucci abbia dispiegato la sua offensiva giudiziaria e polemica adesso, cioè c'è una convenzione. Scusi se mi permetto, no? di interromperla, sì. Questa cosa della faccenda giudiziaria credo che sia cominciata già da un bel pezzo, che è uscita adesso poi è un altro discorso, ma la vicenda giudiziaria nei confronti di Elisabetta Giuliani è cominciata più di un anno fa. Quindi non c'è, però posso dire che non era mai uscita una sua parola senza essere smentito, e che quando Fini ha rotto con Berlusconi è venuta giù l'ira di Dio, si è sentito io libero, io guardi forse. Sinceramente questo non glielo so dire, perché ripeto, poi io mi trovo in una situazione che non voglio cioè che mi sento anche un po' in imbarazzo a commentare, perché sinceramente poi commentare un fatto privato vissuto da una persona a cui uno ovviamente tiene, vuole bene, eccetera, e siccome poi sono fatti accaduti alle spalle nostre, mi sento veramente in grande difficoltà, e quindi però ecco, attenendosi ai fatti, ripeto, la questione della causa contro Elisabetta è iniziata ben prima. Senta, Gaucci, però è vero un fatto che c'è stato un cambio di avvocati, insomma l'accusa che viene fatta principalmente a suo padre, non a lei personalmente, è quella di essere stato istigato in quest'ultima fase dagli avvocati intorno che hanno legami con il Presidente del Consiglio. Insomma, suo padre viene intervistato, fatto anche da noi per carità, ma comunque insomma principalmente e all'inizio soprattutto dai giornali vicini al Presidente del Consiglio, per in un contesto che è quello di uno scontro molto forte con Fini. È così secondo lei? Cioè, c'è lo zampino del Cavaliere dietro queste cose oppure non c'entra nulla? Assolutamente no, perché credo che mio padre stia rivendicando i suoi interessi tutto qui. Non credo che mio padre interessi la politica, assolutamente no. Senta, soprattutto in questa circostanza. Ma lei ha un rimpianto grandissimo, quello di aver fatto conoscere Elisabetta a suo padre, immagino. Addirittura circolò, misero in giro, non so chi, la voce che eravate fidanzati prima voi, invece eravate solo compagni di scuola, le ha raccontato. Categoricamente io lo smentisco. Con Elisabetta eravamo molto amici, perché stavamo a scuola insieme, frequentavamo gli stessi amici, stavamo molto spesso i fine settimana e anche magari per le feste, Natale, eccetera, con la comitiva perché io ero molto amico di... Non facevamo la stessa classe, eravamo un anno di differenza a scuola, ma stavamo a Linguistica al Collegio Nazareno e frequentavamo, avevamo degli amici in comune, quindi ci si vede spesso con le stesse persone, usciamo sempre insieme con tanta gente. E devo anche essere molto sincero, cioè infatti è questo che mi colpì quando poi la storia cominciò con mio padre, che la trovai completamente cambiata. Cambiata in che senso? Cambiata, che sembrava una persona, quasi non ci davamo più nemmeno del tutto, cioè era una cosa fantascientifica. Cioè cambiata in senso naturalmente negativo per lei? Cioè negativo nei modi di comportarsi, sembrava un'altra persona, sembrava come se non ci fossimo mai conosciuti prima. Più attenta a certe cose magari, oppure... Cioè, non so, questo ripeto... Sì, attenta a altre cose, questo non è importante, è proprio il modo di essere che era, sembrava un'altra persona, tutto qui. Lei sa farmi venire la voglia già dal modo col quale si spoglia, pian pianino si sfila il vestito in due pezzi, fa cose da pazzi, lei mi dice. E siamo di nuovo qui con La Zanzara, sempre le musiche di Benny and Vivetta, questa sera protagonisti nella seconda giornata della festa di Mirabello, che si concluderà domenica con l'intervento molto atteso, come sapete, di Gianfranco Fini. 800 24 00 24, questa è La Zanzara, un altro mondo, come sapete. Sempre in collegamento con noi Luca Telese da Roma e Alessandro Gaucci, sempre da Roma, ma non sono insieme, quello è la redazione del Fatto, Luca Telese, Alessandro Gaucci a casa sua. Qual è la storia, Gaucci, di questo nastro che sarebbe stato consegnato a lei, poi lei l'ha dato a suo padre, su Giancarlo Tulliani, quando lui era dirigente della Viterbese? Ci può raccontare, perché ieri ho letto un titolo, l'altro ieri, su un giornale, il nastro che imbarazza Tulliani, a Gaucci gli freghiamo i soldi. Ci può dire qualcosa? Sì, no, era il momento in cui la nostra famiglia aveva la proprietà del Perugia e anche della Viterbese Calcio. In quel periodo mio padre decise appunto di fare di comprare questa squadra ulteriore, che era appunto la Viterbese, e la affidò in gestione a Giancarlo Tugliani. Lei era contrario a questa cosa? No, io non ero contrario, ripeto, perché sa, mettersi sempre in mezzo a delle vicende personali, poi in finale quello che ho sempre detto è che uno della propria vita privata fa quello che vuole, dei propri soldi, dal momento che se li è guadagnati mio padre direttamente, anche il libro di fare quello che vuole. Non è che io potevo permettermi di dirgli no, non far questo, però a un certo punto dobbiamo parlare, sì. Avere darci dei consigli reciproci, però invece io mi sono sempre tenuto alla larga di dare giudizio e cose sulla vita degli altri, anche se era quella di mio padre in quel momento lì, perché comunque, ripeto, lui la sua vita se l'è guadagnata solo e non doveva io a decidere quello che doveva fare dei propri soldi. E allora la storia di questo nastro qual è? Lui decise di comprare questa squadra, la diede in gestione a questa persona con il padre di Elisabetta insieme, e mi ricordo che in quel periodo c'era il direttore sportivo della Viterbese e continuava a cercarmi in continuazione perché voleva parlarmi. Mi chiamò e mi disse: guarda Alessandro, qui le cose non vanno, spariscono le cose, qui vi stanno rubando un sacco di soldi, di qua di là. Gli ho detto: senti, per parlare di queste cose con mio padre è già una questione molto delicata. In più io non è che posso andare a accusare le persone senza prove. Fatto tu, me ne è rimasto. E poi arrivò questo nastro. Lui un giorno mi portò questo nastro che, sempre per ulteriore scrupolo mio, io non volli proprio ascoltare, perché preferivo proprio che fosse mio padre direttamente a rendersi conto di quello che stava succedendo in quel momento. Quindi io lo consegnai a lui direttamente e gli ho detto: guarda, questo è un nastro che mi è stato portato da tal e tali, se proprio vuoi continuarti a far rubare i soldi, fallo pure, però secondo me tanto vale, meglio che gli regali piuttosto che farteli fregare. Ecco, ma rubare i soldi che significa? Ci può dire qualche cosa del contenuto di questo nastro in cui parlava Giancarlo Tulliani? Non l'ascoltai proprio, io mi rimetto alle parole che mi disse all'epoca quel direttore sportivo, che mi disse: guarda, qui mi stanno rubando sui rimborsi spese, sui giocatori, sui soldi. Ecco, ma i nastri che cos'erano? Registrazioni di cosa? Credo che fossero registrazioni inerenti a telefonate dove lui diceva di ricaricare su dei rimborsi spese, soldi in più, tutte queste cose qui che poi si doveva prendere lui. Questo era quello che, sempre ripeto, mi disse l'allora direttore sportivo. E che fine hanno fatto questi nastri? Non lo so, io li consegnai direttamente a mio padre, poi non so che utilizzo ne fece lui, quindi assolutamente. Telese, vogliamo chiedere a Gaucci una cosa: siccome alcune donne di Alleanza Nazionale, in primis dell'ex Alleanza Nazionale, in primis il direttore del Secolo d'Italia Perina, che l'altro giorno è stato anche da voi al Fatto, ha parlato di killeraggio nei confronti della Tulliani, no? C'è stato un killeraggio, non viene difesa abbastanza, si colpisce la famiglia. È una domanda che riguarda la persona Alessandro Gaucci, più che insomma il figlio di Luciano Gaucci implicato in questa vicenda. se lui, siccome ha conosciuto la Tulliani, eccetera, eccetera, anche se in un'altra epoca, pensa che tutto questo rappresenti, non quello che dice lui, naturalmente, quello che abbiamo ascoltato in questi giorni, eccetera, un killeraggio nei confronti della Tulliani. Oppure, insomma, se uno è un personaggio pubblico, può anche sopportare tutto questo ed è anche corretto parlarne. Ma io, guardi, devo essere sincero, io posso riferirmi ai fatti vissuti personalmente dalla mia famiglia, non posso stare a commentare quello che è successo riferito alle varie vicende. No, capito, però secondo lei la stampa si ferma troppo su questa vicenda di Elisabetta Tulliani? Cioè, secondo lei c'è un'operazione di killeraggio nei suoi confronti o è semplicemente cronaca? Non lo so, per me una parte sicuramente come al solito viene sempre ingigantita, questo sicuramente, però io posso dire, ripeto, riferire ai fatti che mi sono successi a me e alla mia famiglia, quindi cioè lei è convinto che una parte dei soldi di suo padre siano finiti in un modo o nell'altro? No, non è che sono convinto, sono sicuro che è una cosa ben diversa. Si tratta di liquidi o solo di intestazioni? Queste intestazioni di appartamenti, tutte e due? Tutte e due, ovviamente, tutte e due. Luca, la schedina. Sì, questa schedina è diventata un simbolo, e allora secondo me è il simbolo dell'ingratitudine che non si dovrebbe avere. Un uomo che dice regalo un miliardo a una donna non può cambiare la sua immagine in quella dell'uomo che poi la insegue dandole della ladra e della truffatrice. Io credo che questa vicenda abbia questo lato che non torna. Forse sarà persino d'accordo Alessandro, visto che a suo padre gli consigliava di lasciarla allora. Cioè non si può, non è un bello spettacolo. Non possiamo vedere quel video girato nel vostro castello in cui lui le prometteva mare e monti e adesso darle quasi della lana. Ma io sono una cosa brutta. Sono d'accordo su questo fatto qui, nel senso che se una persona fa dei regali durante lo stare insieme a un'altra persona, ci mancherebbe altro che debba venirli a rivendicare successivamente, perché in quel momento tu eri libero di regalarli e io eri libero di non regalarglieli. Però dal momento in cui poi bisogna vedere invece quelli che furono i loro accordi, stando sempre a quello che dice mio padre, perché ripeto, io la loro viata insieme non l'ho vissuta nei miei dettagli, quindi stando a quello che dice mio padre, dice alcune cose è vero che gliele ho regalate e quelle ovviamente non le rivoglio, altre sempre a suo dire non furono regali ma furono intestazioni o altre cose che poi dopo lei si tende. Queste sono le cose che dice mio padre. È logico che assolutamente le faccio i complimenti per questa affermazione, perché insomma è coraggioso e non è alcuni toni di suo padre sono stati esagerati nei giorni scorsi, cioè sono dei morti di fame, gli ho regalato tutto, eccetera eccetera. Sicuramente credo che alcune cose sicuramente esagerate, però io purtroppo i comportamenti, ripeto, di queste persone le ho vissute sulla mia pelle e posso garantire che per colpa di queste persone qui sono state mandate via tante di quelle persone che non c'entravano niente su niente, solo per i loro modi arroganti e viziati di fare, persone mandate via, i dipendenti, solo perché a volte non portavano il vino a tavola quando stavano in vacanza, vi dico cose. Ma questo è il padre di Elisabetta o Elisabetta stessa? No, tutta la loro famiglia, delle cose veramente ridicole, scandalose, che non mi va nemmeno di stare a raccontare perché mi vengono i brividi solo a ripensarci, perché erano, ripeto, cose che veramente mi hanno dato fastidio, perché non si possono, hanno sempre fomentato mio padre a mandar via gente perché dicevano sempre che questa gente gli rubava i soldi, cose, gente innocente che non c'entra niente, che faceva soltanto il loro lavoro. E di queste persone ce ne sono a decine, vi garantisco. Un'ultima cosa, la questione della schedina, lei è certo che sia stata vinta interamente da suo padre? Cioè, sì, sono certo, perché nel momento in cui avvenne il fatto mio padre mi chiamò subito per la contentezza e mi avvisò di questo fatto, e poi perché ci sono i testimoni, e poi vedrete da giorni che ci saranno anche ulteriori sviluppi su questa cosa, che dove si dimostrerà appunto la verità di questa vicenda ulteriore. Però la schedina poi pare essere stata incassata da Elisabetta. Sì, adesso poi dopo vedremo come. Nei prossimi giorni ci saranno degli sviluppi. Sicuramente. Va bene, Luca. Sì. Come vogliamo concludere? 30 secondi. Vorrei che lui dicesse una cosa, visto che alla fine questo rapporto è stato comunque, credo, trentennale o ventennale, ecco, ventennale sicuramente. c'è qualcosa di Elisabetta che lei salverebbe? Cioè, aveva delle doti possibili, è stata solo una bella mingonnella, un'arrampicatrice sociale spietata ma così cinica da ingannare? Devo essere sincero, io frequentai Elisabetta quando avevamo circa 15 anni fino ai 18-19, che poi dopo io lasciai Roma, andai a vivere a Perugia per seguire il Perugia Calcio e poi la rincontrai appunto 5-6 anni dopo, quando scoprì insomma che aveva iniziato la storia con mio padre. Come ho detto in seguito, c'è stato un cambiamento completamente, perché quando ci frequentavamo a scuola era una persona simpatica con la quale si usciva, una ragazza veramente normale, senza... Lei la definirebbe, come ha detto Telese, secondo quella, riportando alcune ricostruzioni sulla persona di Elisabetta, un'arrampicatrice? Si può, è una definizione che le darebbe? Non lo so, questo giudicatelo voi. No, lo dica lei. Ma non lo so, a me giudicare gli altri, io mi attengo a quello che ho visto sulla mia pelle, a quello che ho visto. Dunque sì, si può definire in questo modo. Si può definire questo. È sicuramente una persona cambiata in peggio, questo posso essere. Bene, grazie, Giornale Radio, tra poco. Siamo di nuovo qui alle 19:17, 800 24 00 24. Devo trovare il modo per inchiodare qui ogni giorno David Parenzo. Come faccio? Inchiodarlo ogni giorno proprio fisicamente qui, lo voglio qui in studio. Come faccio, Parenzo? Hai sentito lo sciacquone? Erano nei bagni della Sette. Lo so, è nei bagni della Sette a Roma, però. Come faccio ad averti qui in studio a Milano? A Roma sempre. A settembre tutti lunedì sarò a Milano, è il primo settembre oggi, a fine settembre. E fino a quel momento dove sei? A Roma? Roma fisso, sì. Roma, un po' pendolare, Roma, un po' Siena in Toscana dalla suocera. A Milano quando stai poi? Solo il lunedì? Guarda, dunque, da metà settembre, solo il lunedì però. E perché solo il lunedì? E la trasmissione da dove la fai? Da Roma? Da Roma. Disastro assoluto. Hai lasciato Milano definitivamente. Ma ogni tanto vengo il lunedì per respirare un po' di inquinamento al nord, un po' di sana aria. Vabbè, bisogna che concludiamo questa cosa, poi ne parleremo. Intanto becchiamoci i titoli del TG3 800 24 00 24. Poi ti faccio ascoltare qualcosa di grasso che salta il tuo mentana, e tra poco. Napolitano ai cronisti sul processo breve. Ricordate com'è finita con le intercettazioni? La politica si concentri sull'economia. I finiani denunciano, squadristi pronti a contestare fini a Mirabello. Tensione anche sui proviviri, bossi a Palazzo Grazioli. Da nord a sud cresce la protesta dei precari della scuola contro i tagli della Gelmini, presidi permanenti e scioperi della fame. Dopo 7 anni il presidente americano annuncia la fine dei combattimenti in Iraq, adesso nuove sfide, pace in Medio Oriente e rilancio economico. All'Indesit un piano simile alla Fiat, orari più lunghi, più flessibilità, chiusi 2 stabilimenti, un altro passo verso nuove relazioni sindacali. No del Consiglio di Stato agli aumenti dei pedaggi, lo stop vale per tutta Italia, il governo ci sarà una nuova norma, l'opposizione non se ne parla. Al via stasera a Venezia il Festival del Cinema con il giallo a tinte forte Black Swan. Tra le prime star sul tappeto rosso Natalie Portman e Vincent Cassel. E sentiamo anche Sky TG24. Processo breve da Venezia all'invito di Napolitano, la politica si concentri sull'economia. Il presidente all'apertura della mostra del cinema, sul tappeto rosso la protesta dei poliziotti. Tensione nel PDL, i finiani accusano la Brambilla, prepara un pullman di squadristi. Medio Oriente, Obama cerca una via per la pace a Washington, Netanyahu e Abu Mazen. Afghanistan, italiani di nuovo sotto attacco, nessun ferito tra i nostri militari. Lite in sala parto, i NAS a Messina denunciano gravi e pericolose carenze. Si dimette Monsignor Marchetto, l'arcivescovo che difese Rom e migranti. Auto, ad agosto le immatricolazioni crollano ai minimi da 17 anni. Caro pedaggi, confermato lo stop agli aumenti, ma non in tutta Italia. Nazionale mercato, Pirlo lancia la sfida all'Inter, Roma in delirio per Borriello. Lei sa farmi venire la voglia, già dal modo col quale si spoglia, pian pianino si sfila il vestito, in due pezzi fa cose da pazzi. Lei mi dice, dai spegni la luce. Che ti regalo ogni sera, David? Che ti regalo, cosa ti regalo ogni sera? Benny and Vivetta, questa era facile perché l'ho presa dal programma come al solito che mi fa entusiasmare della festa di Mirabello. Stasera è in programma Benny and Vivetta. Benny e Vivetta. Non mi fare più. L'orchestra Benny e Vivetta del Mulino del Po, come dice il nome, vantano la loro esperienza come leader indiscussi dell'orchestra. Il Mulino del Po, questo è il nome dell'orchestra, con il quale incidono il loro più grande successo, Carezze, che li porterà ad essere i più acclamati dal pubblico del Liscio. Insomma, è un Liscio ferrarese, diciamo, pare. Qualche anno dopo si mettono in proprio e formano l'orchestra Benny e Vivetta del Mulino del Po, con il quale girano i locali di mezza Italia insieme alla loro figlia Marilena, giovane e brillante cantante. È stato prodotto dalle Edizioni Musicali Regno Unito il loro nuovo CD intitolato Il Vento della Vita, che raccoglie 12 nuovi loro successi, e questa sera rallegrerà gli uomini di Futura Libertà. Grasso sul TG di Mentana, particolarmente entusiasta. Sentite, gli altri TG sono inguardabili. Adesso, insomma, non esageriamo, per carità, Grasso fa bene il suo mestiere, è un critico anche spesso no, feroce, e però insomma, inguardabili addirittura. In ogni caso, è tornato Enrico Mentana, ha fatto vedere come si conduce un telegiornale con una redazione che si vede che è galvanizzata, che quindi propone servizi, un vero telegiornale. Improvvisamente siamo costretti e anche volentieri a gridare al miracolo, perché gli altri telegiornali sono talmente inguardabili che Mentana fa la sua bella figura. Lo scopo, secondo Grasso, è togliere ascolti al TG1. Lo scopo nostro è quello di sottrarre qualche spettatore alla immobilità del TG1. Rai 1 e il TG1 hanno questa fortuna dalla loro parte, che da 60 anni si portano istituzionalmente dietro un certo tipo di pubblico. La nostra battaglia sarà quella di portar via almeno uno spettatore al TG1. E qui non si capisce, caro David, se noi cosa significa? Noi Grasso e chi? Qui guarda, ho perso le ultime parole perché lui andava giù con la voce. Però, se non ricordo male, visti i dati e le analisi, dati d'ascolto, non soltanto sono stati tolti i telespettatori al TG1, ma anche al TG3, che è quello che, come dire, subisce, no, una perdita di spettatori. Io credo però il ragionamento è interessante sui telegiornali. I telegiornali sono generalmente molto noiosi in Italia, diciamocelo chiaramente. Sì. Chi è che è stato il grande inventore di un nuovo linguaggio di TG? Secondo me c'è Enrico Mentana, sicuramente, non lo dico per captatio benevolente, l'ho sempre sostenuto. E poi c'è Emilio Fede. Cioè, l'inventore di un linguaggio di un TG è una cosa che poi rimane nella storia. Fede, nel bene o nel male. Rimane nella storia, certo. Ha inventato un modo di raccontare la notizia, cioè ha personalizzato il telegiornale, cosa che negli Stati Uniti avviene, perché lì c'è la presenza del conduttore, è fondamentale, no? Ecco, Mentana è uno di quelli che ha anche lui inventato un nuovo linguaggio al TG. Altri telegiornali sono effettivamente noiosi. La novità del TG7 è che lui ha inventato, tra l'altro, la notizia e subito il confronto tra i commenti. C'è molta politica rispetto al TG5 di cronaca che faceva prima, ho notato. Perché è cambiata la stagione, lui l'ha spiegato in conferenza stampa, cioè oggi non devi fare controinformazione, ma devi fare informazione. Fare informazione oggi vuol dire dare tutte le notizie, quelle che fanno male, sia a Bersani, sia a Fini, sia a Berlusconi. Allora sentiamo però Mauro Masi, che è direttore generale. Convince o no questa cosa? A me convince il fatto che forse adesso lui, più libero dai vincoli magari di Mediaset eccetera, punta molto su un pubblico comunque diverso, che è quello della 7, ma anche sul linguaggio. Sì, sì, riguarda... La Fede è una vera rivoluzione, ma anche l'Italia è una rivoluzione nel suo linguaggio di conduzione. Però il pubblico della 7 è molto più attento alla politica rispetto al pubblico del TG5. Dunque lui Giorgino, è... possiamo dire Giorgino. Giorgino è fantastica l'intervista di me. Posso parlare male di Giorgino? Sì, puoi parlare, tu puoi parlare male di tutti e io resta una pietra. No, no, perché qui si può parlare male di chiunque, come bene, naturalmente. È uno spazio di grande libertà. E allora l'intervista, la pietra miliare di questa estate, l'intervista di Clemente Mimun al Corriere della Sera, credo, a Paolo Conti, in cui racconta di Giorgino. Te la sei persa? No. Te la sei persa su Giorgino. Quello che dice Mimun di Giorgino, te lo sei perso. Quello che dice Mimun, ne parla male, mi pare, no? Ecco, malissimo, no? Male, malissimo. Vabbè. Aspetta, perché adesso sono in macchina con la ribotta, produttore esecutivo della 7, che ha acceso perché voleva sentirti e adora la tua voce, poi, la ribotta. Sì? Beh, questo è buono, questo è positivo. Allora, che dobbiamo far ascoltare? Masi, sì, Masi su chi? Masi su Minzolini innovatore, in che cosa non si capisce, però innovatore, sentiamo. Beh, Minzolini l'ho proposto io, era un giornalista, uno dei giornalisti di punta della nuova generazione della carta stampata. Per me è un innovatore e ha i pregi e i difetti degli innovatori. Viene spesso criticata politicamente, anche lui come tutti fa degli errori, delle cose criticabili, ma lo ritengo un giornalista che sta portando importanti innovazioni nel linguaggio televisivo. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi, prima lo si impara, poi... Più sogni e meno fai, più fai e meno sogni, prima lo si impara, poi... Rapper italiani che per e pe qua qua qua qua per e pe, politici italiani che per e pe qua qua qua qua per e pe. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Sulle note di Fabri Fibra, caro Parenzo e naturalmente cari ascoltatori che ci state... qui state aspettando anche di intervenire all'800240024, Bersani e lo spiedino. Cosa c'entra, caro Parenzo, Bersani e lo spiedino? Perché fissato da qualche giorno sul fatto che sono stati loro, cioè il Partito Democratico e gli antenati del Partito Democratico, a inventarsi il contatto col territorio, ce l'ha con la Lega. Non è vero che la Lega ha il monopolio del territorio, eccetera. E adesso si è fissato su questa cosa dello spiedino, sentite. E se loro fanno un po' di feste in giro, non so da chi le hanno imparate, noi ne facciamo 2000 quest'anno in Italia, con decine di migliaia di volontari, a proposito di Partito Popolare. E se chiedono a me, uno della Lega, quanto deve pesare uno spiedino per non rimetterci, io glielo so dire, lo chiedono a Berlusconi se glielo sa dire, a proposito di Partito Popolare. Beh, insomma, la guerra la guerra a pesare lo spiedino per risparmiare Berlusconi, che l'altra sera è stato segnalato insieme a Lele Mora da Giannino dopo la partita dove aspettavano invano Ibrahimovic. Posto storico dei milanisti, Giannino vicino alla stazione centrale di Milano. Insomma, io penso che Berlusconi certamente non sappia cosa bisogna fare per risparmiare e dunque quanta carne bisogna mettere uno spiedino, ma adesso che questo c'entra? Il cuoco Michele, il cuoco di Berlusca, Michele forse lo sa, ma insomma perché così fissato Bersani su questa cosa dello spiedino, la Lega, il Partito Popolare? Come dicono a Roma, caro Cruciani, perché gli brucia da morire, gli erode perché capisce che in verità sì, lui farà tantissime feste in giro, ci sono i tanti. Però oggi le vere feste popolari, basta insomma girarle, vedere lo spirito un po' rustico, no? Un po' selvaggio, sono quelle della Lega Nord. C'è poco da fare, questo è nel DNA. Che cos'è oggi il PD? Che cos'è oggi il PD? Che ne una so, domanda, io non lo potremmo so. Stare delle ore noiosissime a discutere su che cos'è oggi il PD. Però su cosa non è, mi suggeriscono qui dalla regia mobile. Dalla regia mobile della 7, sempre, sì. Che sarebbe la vettura, una macchina. Sì, la vettura, una macchina. Tu poi questa cosa la devi spiegare bene, ogni sera sei in macchina andando con una persona. Ma che no, non è... perché io sto, adesso lo spiego, via Emo. No, ero, mi chiedi, ero a via Emo, sì, alla redazione della Sette. Ora sto andando a via Novaro, dove sono gli studi. Non sono gli studi, sì. No, perché non vorrei fare preoccupare la tua moglie, compagna, per queste cose. Perché da mia moglie, magari da mio, sta tutti, anzi, alla radio sta tutti i miei spostamenti ogni giorno. È contenta. Signora Parenzo, non c'è nessun. Tutto regolare, insomma. Trasferimenti da via Angelo Emo a via Novaro. Bene, 1933 800 24 00 24. A Benny Ambitetta non me l'avete messo più. E via, no, scusa, stasera è tutto su quella la cosa. Via. La coppia ferrarese è la migliore paese, e senza aver pretese si vuole divertir, si mena, si rimena, s'amalgama per bene, nel forno c'è il suo letto, che è il posto suo perfetto per farla lievitare. Produzione, per esempio, che non gli è simpatico Berlusconi, io non approderò mai. Io ho incontrato ostacoli. Io, quando ho fatto la promozione del mio terzo disco, ci sono state moltissime trasmissioni di Mediaset che non hanno accettato la promozione. In Rai me ne hanno accettate quasi una trentina. Apicella, Apicella qui a Radio 24. Ho incontrato delle difficoltà per la mia amicizia con Berlusconi, addirittura. Sentite invece su Fini. Ma lei per Fini canterebbe, per esempio? Io canterei per tutti, basta che mi pagano. Basta che mi pagano, invece ci sono Benny e Vivetta con noi dalla macchina di servizio della Sette, o su un taxi o su una macchina privata, non lo so. David Parenzo, sei arrivato a Via Novaro oppure no? Sono arrivato a Via Novaro, ho appena incontrato Luisella Costamagna che si sta truccando. Come al solito. Ti saluta . E le ho consegnato il dossier di rito e agenzie, cose, e adesso posso dedicarti ancora una bella mezz'ora. Bene, bene. 800 24 00 24, dove andiamo? Massimo da Lecce, buonasera. Luciani, buonasera. Dica. È sempre un piacere parlare con lei. Senta Cruciani, niente, io leggevo oggi su Repubblica la storia del processo breve o processo lungo. Il capo della veramente è una farsa ormai questa storia. Almeno Alfano ci potrebbe risparmiare queste dichiarazioni, facciamo il processo breve per snellire l'attività della magistratura, dei tribunali, per accorciare i tempi dei processi. Ma dica apertamente, facciamo il processo breve per fulminare i processi che riguardano il Premier, cioè, perché non so se hai letto l'articolo, qua si parla di due strade parallele, sì. Il fine è unico però, fulminare i processi del Premier, o perché accorciamo i tempi per cui non rientrano più nel periodo di tempo giudicabile, oppure se questa strada non è percorribile perché il presidente Napolitano con i suoi consiglieri oppone dei rilievi, se i finiani non sono d'accordo, allora che facciamo? Allunghiamo la strada, quindi facciamo i processi lunghissimi così cadono in prescrizione. È una farsa, basta, dico solo questo. Beh, le dichiarazioni dei politici sono una farsa, su questo le do ragione. Massimo, l'obiettivo mi pare, Parenzo, molto esplicito, qualcuno lo dice anche in maniera chiara, certo non si può parlare di riforma della giustizia, cioè qualcuno lo dice esplicitamente, dobbiamo impedire che si arrivi a una condanna di Berlusconi, cioè non si deve arrivare. Allora, bastava fare il lodo meccanico, bastava fare una cosa più esplicita. Ma quelli non vera... sono passati, quelli non sono passati la Corte Costituzionale. Ho capito, però non è che si può sfasciare il sistema giustizia per e allora si arriverà a un compromesso, Parenzo. Il compromesso sarà che Napolitano accetterà un tot di processi che andranno al macero, meno di quelli di cui si parla adesso, sempre con l'obiettivo di che siano inclusi tra questi processi quelli che riguardano Berlusconi. Insomma, umilmente dissento, perché invece andava appunto congelata la posizione del Presidente del Consiglio per poi processarlo una volta che ha terminato il suo mandato. E hanno sbagliato strada allora, perché hanno provato il lodo Alfano, diciamo, come legge, hanno provato il legittimo impedimento, hanno messo il lodo Alfano costituzionale, troppo complicato, e alla fine qui i processi vanno avanti. Il rischio di una porcata è alle porte. Assolutamente, il rischio di una porcata, comunque il rischio che diversi processi siano così annullati. Si tratterà sul quanto, ma i finiani ci staranno secondo te? Secondo me sì, la maggior parte dei finiani. Ma alla fine sì. Guarda, domenica sapremo tutto, perché domenica ci sarà questa grande battaglia, per cui sembra che tutti vadano lì, vadano a Mirabello, si preparano dei pullman, ho letto, la Brambilla già querelato, gli squadristi del PDL, io non ci credo, gli squadristi del PDL. Ma saranno quattro. Questo gatti. Non lo so, sicuramente Libero farà una delegazione, come hai letto. Capitanata pare da Francesco Borgonovo. Sembra. Sì. Sembra che Francesco Borgonovo si rechi, si immolerà. Si immolerà. Caso. E vedremo se l'anima missina salterà fuori. Cioè, io prevedo Cazzotti, amico mio, prevedo Cazzotti. Io lo spero un po' per divertirci, diciamo la verità. Però non lo so, addirittura Cazzotti, non lo so. Io non credo che ci siano questi squadristi del PDL, come riporta il sito di Generazione Italia, che parla di testimonianze dell'organizzazione di una contestazione guidata dalla Brambilla. Così sarebbe di cattivo gusto, no? C'è una manifestazione, perché devi andare a rompere le scatole, discuti, contesta, certo, dichiarazioni, certo. Perché devi andare a così a provocare per forza? No, per carità, dopo che abbiamo difeso dell'Utri ieri dalla è un po' una cosa alla Piero Ricca, cioè se dovesse verificarsi, esatto, è il Michael Moore alla matriciana dei quello altri, che lanciò quello il che... coso, lanciò il che lanciò quello, a Berlusconi. Quello che disse Buffone a Berlusconi è che insegue i politici con questa telecamera che è il moderno manganello fascista, con domande retoriche dalla risposta scontata, no? In seguito sì. Dice allora dov'eri, confalonieri, dov'eri? Se dovesse verificarsi un episodio di questo tipo, siamo alla Ricca. Eh sì, siamo il livello è quello, spero che non ci siano, anche perché insomma, ieri abbiamo difeso dell'Utri da questa cosa di Como, insomma le manifestazioni, le persone vanno sentite. Abbiamo difeso dell'Utri sui diari, però sui non diari, no, quanto... sì, non c'è bisogno che specifichi, Davide, lo so, io sì, sai, tu devi specificare sempre, perché su dell'Utri hai sempre, ho capito. Vabbè. Su dell'Utri ho un legittimo sospetto. Hai un legittimo sospetto, sì. Non so se ce l'hai su Ballaman, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, c'è un interessante rapporto della Corte dei Conti sull'uso dell'auto blu per scopi privati. Ma ne parleremo più avanti. Lo hanno tanato Edward Ballaman. Pare, però non vuole parlare con noi. L'abbiamo chiamato, no, non parlo perché c'è un'indagine della Corte dei Conti. E ho capito, caro Ballaman, quando ti chiamiamo su altre cose, vieni tranquillamente a parlare. Quando devi rispondere del fatto che la tua auto blu te la sei portata, non so, a prendere la tua fidanzata o ad accompagnare all'aeroporto, non parli. Ho capito, è facile così, però. Chiama, dai, Ballaman, ci conosciamo da anni. Chiama la Zanzara. Chiama la Zanzara. Presidente Ballaman, chiami la Zanzara. Il numero è sempre lo stesso, 800-24-0024, anche il numero dei nostri assistenti. Ci chiami, per carità, noi siamo buoni, non vogliamo mica metterla in croce. Anzi, io penso, caro Parenzo, che in realtà l'auto blu, se uno ce l'ha, la può usare sempre, anche per andare all'aeroporto a accompagnare la fidanzata. Qual è il problema? Proprio per accompagnare, no, accompagnare la fidanzata, no, se anche lui deve andare all'aeroporto, sì, cioè, proprio accompagnare la fidanzata. Sì, no, però li contestano anche, è andato alla festa della Lega, eccetera. Ho capito, ma come ci deve andare alla festa della Lega, Ballaman, con l'auto sua? Ci va, ma con magari avrebbe fatto più bella figura se fosse andato con un motorino, una bicicletta alla Prodi. Sì, però se uno ce l'ha, sta auto blu, la usa, non è che la lascia lì. Sì, basta non andare, ecco, lo scandalo è quando ad esempio uno ci manda la moglie a fare la spesa. Certo, quando lui è lì in macchina, può andare dove vuole, anche no, cioè o sbaglio? Beh, quando è in veste del suo ruolo va alla festa della Lega, come sì, ma se uno va all'aeroporto per partire in vacanza, se uno va all'aeroporto sì. Uno parte in vacanza, vabbè, no? Però ci vuole un po' di stile, no? Che bisogno hai di prendere l'auto blu? Prenditi un taxi, sono 45 euro da Roma Centro a Roma Fiumicino. Sì, no? Forse per andare in vacanza, partire con la fidanzata. Non lo posso permettere io, non se lo può permettere Ballaman. Per partire con la moglie in vacanza, forse. È uno stile, proprio, è una questione di stile, non è uno scandalo. Gli scandali sono altri. Denis Verdini, quello è uno scandalo. Per esempio, se fosse confermato tutto quello che i giudici gli dicono. L'aggiungiamo sempre. Cioè, adesso io non ritrovo più le accuse. Eccole qua. Le accuse della Corte dei Conti. Però, insomma, cioè, domenica rientro dalla Cina e al mare. Cioè, rientrava dalla Cina il 26 aprile del 2009 con l'Audi A6 di servizio. rientrava dalla Cina e poi è andata al mare sempre con l'auto blu. Tu dici poteva rientrare dalla Cina e farsi prendere, venire a prendere la taxi e poi andare al mare con la, con, sì, la, con l'auto piccolo, su. Ma è come Bertinotti, adesso è la stessa cosa di Bertinotti che va al, al, che lo beccano al mare con la macchina parcheggiata, tra l'altro pare in sosta vietata, come ha pubblicato il giornale qualche settimana fa, se non ricordo male. Insomma, se devi andare al mare, secondo me, poi con la moglie puoi andarci con un altro mezzo, no? Poi, per carità, gli scandali veramente sono altri. Allora, un ascoltatore ci segnala: il presidente del Friuli Venezia Giulia è tondo, certo, il presidente del Consiglio regionale, caro Paolo. Ha ragione però a bacchettarci, ma noi avevamo ben chiaro che il presidente del Consiglio regionale è Ballaman, il presidente, il governatore del Friuli Venezia Giulia si chiama Tondo. Benissimo, Tondo, sì. Plinio da Roma, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, dica. Buonasera, dottor Cruciani. Lei la pregherei di ascoltare soltanto un piccolo intervento che riguarda lei personalmente. Sì. Io ho seguito sempre, la seguo da un anno, sì, due anni, tre anni questa trasmissione, e quando vedo che qualche ascoltatore si rivolge a lei in maniera molto poco educata, dicendo che lei appartiene a un ramo politico oppure a un altro. Beh, ma fanno bene, ma qui è una, no, possono dire quello che vogliono, possono dire quello che vogliono. Dottor Cruciani, lei ha una logicità di ragionamento. E io che sono una persona intelligente, credo di esserla, sono laureato in legge, quindi ho fatto molti lavori che riguardano questo argomento. E allora? E lei, io non sono riuscito a capire lei di quale parte politica è, perché il giornalista deve essere così, non deve essere capito allora di sinistra. Allora? Niente, le volevo fare un complimento. Poi, beh, per quanto riguarda, io ho chiamato per Gaucci, per il fatto di Gaucci. Gaucci, io ho frequentato Perugia per tanto tempo, perché ho i miei dottori là, ho il mio cardiologo, ho i miei amici, sono tutti là. Cioè i dottori, anche... lei va a Roma, però ha i dottori a Perugia. Sì, cioè, no, le dico perché ho delle amicizie da tanti anni, da 20, sì, 30 anni, 35 anni, e quindi le mantengo. Oltretutto poi in Umbria si mangia molto bene. Quindi a parte questo. Ma allora io sono per metà umbro, si figura. E allora è perfettamente logico. Io non so se il dottor Telese Telese era all'inizio della trasmissione, poi è fuggito. Sì, come al solito. Non so perché se sta lì con Parenzo a fare. No, aveva capito meno. Ah, è logico che Gaucci faceva dei regali, ma non ha parlato nei suoi atti di citazione, non ha parlato dei regali che faceva. È logico che se io ho una donna che amo e che sta vicino a me e che ho delle proprietà che temo che possa per aver qua fatto un'evasione o aver fatto qualche cosa, non pagato l'IVA, che possano portarmi via prima che io possa raggiungere un concordato bonario, e lo intesto a questa persona che amo, che in quel momento mi dimostra l'amore, è logico che gli intesto le proprietà, ma gli posso intestare una casa a lei per regalo, ma le altre no. E quindi, dato che sono 4-5 sotterranei, cantine, garage e compagnia bella. Vabbè, ma insomma, queste, caro Plinio, sono cose di cui si occuperà la magistratura. La famiglia Gaucci è convinta che intestazioni e soldi siano state fatte per vari motivi e che dovevano rientrare nel fallimento del Perugia, e che dunque, insomma, la famiglia Gaucci vuole qualcosa indietro, comunque vuole che siano accertati i fatti su questo. Ma ripeto, poi non entriamo troppo nel dettaglio di queste cose, altrimenti non capiamo nulla. Voglio chiedere a Parenzo se andare a Milano con la fidanzata per la partita Padania-Tibet è un impegno istituzionale o no? A Milano con la fidanzata per la partita Padania-Tibet. Beh, un po' sì, perché la partita Padania-Tibet ci sono esponenti della Lega, uno potrebbe dire vado là perché devo incontrare Bossi, diciamo, no? Padania nazione e tutto il resto meridione, quindi se sei in veste istituzionale e se si riconosce la Padania come, diciamo, entità geografica, è una visita istituzionale. Anche qui è un po' un fare pipì fuori dal vaso, però se uno però vuole andare a vedere la partita Padania-Tibet, il presidente del Consiglio regionale della Friuli Venezia Giulia, ma come ci deve andare? Anche lì con l'auto blu. Se l'auto blu ce l'ha, ho capito, altrimenti dove va questo qua? Il presidente del Consiglio regionale, sai, un incarico. Ma degli incontri istituzionali, cioè, io poi su questo non è che sono un bacchettone, la casta, chi se ne frega, l'importante è che il politico faccia delle buone leggi, sia onesto, non rubi, governi bene, insomma, questo è quello che si dovrebbe chiedere a un politico, che deve essere anche ben pagato. Ecco, fammi dire una cosa un po' che adesso scatenerà qualche tuo telespettatore. Il politico deve essere ben pagato. Questo, questo non c'è ombra di dubbio proprio. Però un po' di stile vorrebbe che insomma queste manifestazioni, che sono manifestazioni di partito, trovino, come dire, beh, è proprio necessario andarci con l'auto blu, questo che dico, cioè non hanno pecunia per vendicarsi. Te ne dico un'altra, 2009, sempre con l'Audi 6, perché la prima è con la Lancia Tesis. Audi 6, 2009, 18 novembre, aeroporto di Venezia, con fidanzata, parentesi, questa è roba della Corte dei Conti, per accogliere nonna e zio di lei in arrivo dal Sudafrica per il matrimonio. Poi Campo Nogare, rientro a Pordenone, perché c'era il matrimonio, insomma, in... questo non si fa, però. Questo non dai. Si fa, questo non si fa. Porti la suocera, la moglie, tutti sull'auto blu. Che bisogno c'è? Nonne zio di lei in arrivo dal Sudafrica, no, questo forse no. Però questo... se non si incazzano i leghisti, voglio dire, vabbè, la Corte dei Conti farà un accertamento, probabilmente in questi casi vedrai ci sarà comunque una sanzione, qualcosa sicuro. Perché aeroporto Malpensa di Milano per partenza viaggio di nozze? È anche questo, dai. Invece la con l'auto blu poi, ma non è neanche chic. Ma scusa, è inelegante, se devi partire viaggio di nozze vai con una bella 500 tua, no? Sì, con la... sì, effettivamente più, no? Per partire il viaggio di nozze e farsi accompagnare con l'auto blu non è bellissimo. E anche vanzina. Rientro perché è un po' vanzina, ecco, è un po' vanzina. Sette... è un po' Christian De Sica in vanzina. Dai. Beh, 7 gennaio 2010 partivano per il viaggio di nozze. 23... Balaman ci perdonerà, scherziamo un po' perché lui non è voluto venire qui. Perché Balaman, rispondi, Balaman. Vedrai che chiama, vedrai che entro le 20:30 chiama. Sì, sì, chiama sicuramente. Perché poi è un politico serio, è un bravo amministratore. Pardi, buonasera. Buonasera. Come sta, senatore Pardi? Benissimo. Italia Pancio. Cioè, Pancio, Pancio Pardi. Dove si trova? Mi trovo in vacanza. Ancora in vacanza? È il primo settembre oggi? O beh, due? Io entro in commissione il 7 di... Il 7. Il 7 beh, in commissione ci sarò senz'altro, ci sarò anche il giorno prima, ma non vedo perché dovrei andare a Roma prima. Ma sono tutti rientrati, Pardi. Anche lei si sbriga a rientrare. Mi sbrigo, arrivo quando è necessario. Ma dov'è in vacanza, se posso? All'Argentario. L'Argentario è grande. Noi siamo sempre curiosi dove sono le persone, un po' per localizzarle. Abbiamo proprio il Google Earth qua davanti a noi, una specie di Google Earth che inquadriamo esattamente dove sono le persone. Mi dica esattamente. Mi seguite col GPS? Esatto, mi dica esattamente dov'è. Località Spadino. Località Spadino. Io sono un vecchio frequentatore dell'Argentario. Questa non la trova, località Spadino. No, infatti non questa non la trova. Forse su Google, sì. Ma località Spadino non è più... Non che abbia grande importanza. Più no, per carità. Le posso dire che fino a 18 anni fa non c'era nemmeno... Anzi, 15 anni fa non c'era nemmeno la luce. Senta, ma lei è più Porto Ercole o Porto Santo Stefano? Porto Santo Stefano. Porto Santo Stefano. È, versione, è più popolare, no, Parenzo? Invece di Porto Ercole è un po' più chicco, sbaglio. Può essere. Parenzo, tu sei non un frequentatore. Non mi occupo di questa cosa. Parenzo, sei un frequentatore di quelle zone, tu lo sai. Castiglione della Pescaia, io sono. Meglio Castiglione della Pescaia. Lei parla. Colonica Castiglione della Pescaia. Io andavo a Castiglione della Pescaia quando ero piccolo. Però non vedo che quel cosa possa interessare gli ascoltatori questa mia. Ma lei insiste, senatore Pardi, guardi no, che interessa. Dovrebbe essere una casa di vetro. Senatore Pardi, lei dovrebbe essere il primo a saperlo. Lei è il fautore della trasparenza assoluta. Interessa moltissimo. Guardi, si sbagli su ma questo. Ma c'è qualche cosa di maniacale in questo. Io credo, dovrebbero interessarsi delle cose che facciamo. Non, no, non anche di dove. Di come vestiamo. I giornali, per esempio, dicono sempre: Berlusconi aveva il maglione, ma chi se ne frega? Che ma guardi che la prima cosa che le persone vanno a notare è anche questa, senatore Pardi, ma si è accorto che le riviste di gossip hanno il politico come persona più gettonata dell'attore, cioè dell'attore non gliene frega più un cazzo a nessuno. Il politico in spiaggia invece con il suo costume da bagno che si immerge, che fa le coccole alla fidanzata, che gli spalma la crema, che le spalma la crema, sì, il politico in spiaggia di... è gettonatissimo nel mercato, sì, dei fotografi, vale moltissimo. È una cosa orribile. Ma come orribile? Se non te ne parli, la modernità è la democrazia, la trasparenza, la modernità. Sì, ma la modernità dovrebbe occuparsi delle cose sensate. Ma poi ci sono quelli che si occupano. Anche. Per esempio, l'altro giorno. Facciamo o non facciamo l'autostrada tirrenica? Io, per esempio, sono contro l'autostrada. Ma come contro? Pardi, io sono a favore. L'autostrada è una cosa moderna. Come si fa a dire di essere contrario all'autostrada? Basta fare la Uevi a quattro corsie. Non mi faccia arrabbiare. C'è già tutta, Mino, 11 chilometri da. Ma solo in Italia si discute delle autostrade da farle o no? Ma bisogna fare le autostrade, non l'ampliamento dell'Aurelia. Le autostrade solo perché no, ci sono quattro VIP, quattro VIP da Capalbio e non vogliono. Ma che c'entra i miliardi adesso, non Lunardi? Mi faccia una torrota anche Lunardi, lei, Lunardi. Lunardi aveva disegnato un tracciato apposta per fare più buchi possibile. Sì, ma al di là poi delle diatribe su questa cosa, che per carità dura da 30 anni questa diatriba. Parenzo, tu sei anche di quelle zone indirettamente. Ora, no, voglio dire, ma è possibile mai che ancora si discute se fare o no un'autostrada? Io divento pazzo per questo, divento pazzo. Un attimo, mi faccia sentire Parenzo. Parenzo, che dici? No, ma il popolo deve andare in spiaggia, ma anche velocemente, perché devi far fare quelle lunghe file, no? Sotto il sole. E invece no, lo sai che qual è la cosa? Siccome l'autostrada dovrebbe passare in una zona in cui ci sono le ville dei VIP, sì, i casolari, tutto, non si fa, bloccano tutto da un sacco di anni, no, eccetera, tanto, eccetera. Intanto ora per. No, lei non ce l'ha il casolare, lei non ce l'ha il. No, non ce l'ho, io sono lontano dall'autostrada, quindi non sono interessato personalmente. Però è vera questa cosa, che l'ostacolo è anche questo, Sì, però l'ostacolo fondamentale è che non ci sono soldi. Siccome non ci sono soldi per niente, nemmeno per l'università che Tremonti e Gelmini stanno ammazzando. Vabbè, adesso lei butta sempre non politica. Non c'è nemmeno i soldi per l'autostrada tirrenica, però insomma. Questo è un particolare, ora forse oramai di secondo grado. No, di secondo grado. Guardi che invece lei, vede, quando va a braccio, tira fuori delle polemiche interessanti, perché Dago Spia insiste moltissimo su questa cosa, non capisco perché, ci deve essere qualche questa fonte. Questa storia dell'autostrada? Eh sì, questa storia dell'autostrada, le polemiche tra Matteoli, ogni tanto esce fuori la storia dei capalbiesi, degli ostacoli su questa autostrada. Ma Di Pietro era a favore dell'autostrada, Come? Quando Di Pietro era ministro era favorevole all'autostrada. Ma Di Pietro... Vede che in realtà c'è già una strada tutta. Sì, ho capito, però... No? Fare un'autostrada accanto... Se lei va a Bolgheri, per esempio, che è fuori lontano da casa mia, lei ha il mare, le dune bellissime, poi c'ha 100 metri, 200 metri di retroduna, poi c'ha la qua strada a quattro corsie, sopraelevata, issata su un argine altissimo che tappa la pianura, poi c'è l'Aurelia, poi c'è la ferrovia. E allora? Cosa ci vuol fare? Anche l'autostrada lì? No, però mi scusi, il problema è uno solo. Lo sa lei, Pardi, che per andare da Parigi a Roma l'unico tratto da Parigi a Roma, non sto dicendo tra Caltanissetta, l'unico tratto tra Parigi e Roma in cui non c'è l'autostrada è tra Rosignano e Civitavecchia. Ma lei si rende conto? Tra Rosignano e Civitavecchia fa una superstrada a quattro corsie con gli svincoli sopra e sotto. A parte che questo è un discorso teorico, perché in realtà se uno avesse voluto fare una cosa del genere l'avrebbero già fatta, evidentemente. Tutta meno 11 chilometri tra Torbe e la Dogana Papale e 9 chilometri tra Tarquinia e Civitavecchia. Io sono sempre per le autostrade, bisogna farle sempre. Questo caso. L'avevo capito. Ma non per ti annuncia che è arrivato Battista alla 7, È arrivato Battista? Sono qui davanti. Perché di che parlate? È ospite con noi stasera in un grande match con Di Pietro. Però passami un secondo, voglio. Lo passo su e se chiedo, posso passarti? Cruciani, Radio 24. In diretta, la Zanzarina. Te lo passo, ha consentito. Grazie. 1000 euro gettati di presente. Grazie. PG? Pronto. Buonasera. Buonasera, è del tutto inaspettata. Lo so, ma infatti non ti voglio fregare su qualche cosa. Ti voglio chiedere di Dell'Utri. Dimmi se questa contestazione che c'è stata l'altro giorno a Como è una cosa degna di un paese civile oppure no? Adesso senza esagerare, per carità, perché non è che hanno preso a pietrate Dell'Utri, però... Guardi, l'articolo 21 della Costituzione... quello che è stato richiamato molto in questi mesi, prevede la libertà di espressione, di opinione, di stampa, eccetera, eccetera. Non prevede un comma che dice vale per tutti i miei amici e non vale per i miei nemici. Allora, le persone possono e devono parlare, qualunque sia la loro posizione. Mi sembra così elementare. Qualcuno ha detto, però così si nega anche il diritto al dissenso. Ma il diritto al dissenso ha un senso, scusate diciamo il bisticcio, se qualcuno può dire quello che pensa, ma se tu impedisci di dirgli quello che pensa, non si capisce tu che cosa contesti, non contesti più l'argomento, contesti una persona. E allora non va bene. Per esempio io poi ti lascio, sono convinto che la anche... La questione non è Dell'Utri, la questione è la libertà di parola, sì, è chiaro? Io cioè, so... non, non, non, che vale erga omnes. Vale anche, ti faccio un'ipotesi estrema, io sono a favore di questa ipotesi però, ed è questa, sì. Vale anche nei confronti dei negazionisti, quelli che per esempio non negano l'olocausto, secondo me sì, cioè Irving quando... Secondo me sì, so che c'è una discussione anche con le persone che mi sono più care, perché poi capisco che si possono offendere, diciamo così, sentimenti profondi. Ma secondo me non può essere un decreto legge che può impedire la pubblicazione di un libro. Mai. I diari di Mussolini deludi sono una bufala, secondo te? Guardi, non vorrei, diciamo, dire cose che poi mi possono portare in tribunale, ma secondo me sì. nel senso che... Al momento, per quello che sappiamo, beh, sì. Beh, però no, diciamo che sono 3 anni che aveva detto che ci sarebbero stati degli storici, delle... perizie che avrebbero accreditato l'autenticità dei diari, tutto questo non è avvenuto, cioè non c'è ancora nessuno storico, nessun grafologo, nessuno che possa dire sì, questi sono i diari di Mussolini. Dell'Utri dice, ma nessuno dice che non sono i diari di Mussolini, ma in questo caso l'onere della prova spetta a chi presenta i documenti, perché altrimenti non funziona così nella pubblicistica, non si può, io e te, ci mettiamo a fare dei falsi diari di Stalin e poi diciamo che sono che qualcuno deve provare, che comunque in ogni caso li pubblichiamo. Infatti, siccome anche la pubblicazione da parte di Bompiani, per carità, è legittima, lo sappiamo, abbiamo avuto anche noi una polemica con Elisabetta Sgarbi, però non è come pubblicare un romanzo, non è come pubblicare un libro qualsiasi, purché venga segnalato. Guardi, se viene segnalato in copertina, cosa che credo che si farà, pare di sì. I diari presunti, e allora è come presentare del materiale di discussione, che non è quindi la presentazione, ecco i diari di Mussolini. In quel caso credo che si possa accettare. Se fosse stato i diari di Mussolini, sarebbe stata un'etichetta falsa su una merce che non è quella che viene indicata, sì, dal barattolo, capisce? Quindi per fortuna mi pare che ci sia stata questa scelta. Bene, grazie a Pierluigi, no, grazie Battista. A voi, scusate della, no, diciamo, ma è una cosa al volo con grazie all'amico Parenzo. Sappiamo chi è il colpevole. Il colpevole è Parenzo. Altro che tregua, voteremo il testo del processo breve passato al Senato, annuncia La Russa. Nessuna trattativa, Bossi e Tremonti da Berlusconi. Nel sito di Generazione Italia sfumiamo però questi titoli della 7, perché, caro Parenzo, in diretta, come credo tu sappia, c'è Italo Bocchino da Enrico Mentana. Allora godiamoci questa breve intervista, poi ti lascio, Davide, non ti preoccupare. Se non sarà modificato il testo così com'è, non può essere da noi votato a scatola chiusa, per 2 ragioni. Uno, perché ci sono perplessità di merito, e poi perché non possiamo accettare come soggetto politico parlamentare che ci venga dato un opt-out di questo tipo. Vediamo cosa è successo nel servizio, è una denuncia quella di Generazione Italia. Va bene, che anche questa Parenzo, che succede lì? È tutte chiacchiere per adesso. Quale testo? Di quale testo si parla? Quello, diciamo, conclusivo, che forse potrebbe essere accettato da Napolitano, oppure il testo, quell'ultimo, quello approvato dal Senato? No, qui a Roma dicono che la trattativa è ancora in corso. Io credo che sia quello del Senato, però. Infatti, il testo è ancora quello del Senato. Per cui... Però prevedo, ti avevo già detto qualche settimana fa, quando mi trovavo nella bellissima tenuta di Lucca, che prevedo elezioni, confermo, prevedo elezioni anticipate dopo l'incontro di Tremonti e Bossi con Berlusconi di oggi, che è stato oggi, sì. Secondo me le elezioni si fanno più vicine. Sbaglierò, però... Vabbè, vedremo. Ti lascio, grazie Parenzo. Grazie. Grazie. A te. Baci, grazie. Dappertutto, Smack, Bezos, baciami ancora. Va bene. La Brambilla smentisce intanto. No, i baci. Smentisce la clac del PDL contro Fini. Vabbè. È normale, no, non può. Non agurcano, può agurcano. Baciami ancora. Ancora. 23 minuti, grazie a David Parenzo in collegamento a Roma, 800240024. Senatore Pardi, ci scusi, noi siamo dei giocorelloni. Sì, l'ho sentito. Ha ma sentito, non è così terribile, anzi, no, simpatico. Meno male. Senta, se Battista su Dell'Utri vuole replicare, perché Di Pietro ha detto in tutti i colori. Dico qui, questo, io penso che... Non mi dica una cosa contro lei, io lo so che lei è una persona ragionevole e che la politica non l'ha... Non mi ha fuorviato. Esatto, mentre Di Pietro, per carità, sempre ragionevole, non voglio dire che sia per carità, però l'altro ieri ha detto le persone come Dell'Utri devono andare in galera, non devono parlare, questo mi sembra esagerato, francamente. Parli, mi dica una cosa. Beh, su secondo questo. Secondo me c'è quasi un vantaggio a farlo parlare, perché la storia degli ideali di Mussolini è una tale patacca che se uno la propaganda in un certo senso viene fuori quasi meglio, ma però devo aggiungere una cosa, che secondo me Dell'Utri gioca con una speranza, lui cerca di deviare l'attenzione dalle condanne che ha già ricevuto per contatti con la mafia e in ogni caso dai contatti che ha avuto indiscutibili con personaggi mafiosi, è lui che ha portato il bandito Mangano in casa di Berlusconi ad Arcore, quindi un personaggio diciamo da prendere con le molle. Il Dell'Utri si rappresenta, autorappresenta come un bibliofilo importante nella speranza di far dimenticare che c'ha invece questa sorta di passato ambiguo, strano, però oscuro. I diari di Mussolini servono che, a questo, il secondo problema me. È che invece lui non riesce neanche a fare il bibliofilo e questo lo rende un po' un personaggio da commedia, perché un vero bibliofilo non avrebbe fatto una sortita di quel tipo. Questo mi fa pensare che c'è forse qualche cosa che ancora non sappiamo. Lui vuole accreditare un'immagine di Mussolini bonacciona, sentimentale, che diciamo così forse corrisponde ai suoi connotati originari di giornalista socialisteggiante, amante dei toni da fotoromanzo eccetera, però poi dopo è cambiato, è diventato un però tipatore. Secondo me adesso non possiamo dire che Dell'Utri sia uno che elogia Mussolini, secondo insomma, lui... però ne dà, no, perché questi diari ne danno una rappresentazione edulcorata. Dunque hanno sbagliato quelli a protestare contro Dell'Utri o no? Ma no, qui secondo me tutti hanno diritto di protestare. E anche di parlare però. Però lui ha il diritto di presentarle, secondo me è perfino divertente che lui presenti. Dunque Di Pietro ha sbagliato a dire in galera Dell'Utri non deve parlare. Come? Ha sbagliato no, Di Pietro tutti quando... tutti devono parlare. Dunque ha sbagliato Di Pietro a dire questa cosa. Lo può dire, mica non è il capo supremo dell'universo Di Pietro. Cioè, diciamo, ci sono dosature diverse della polemica, non è... La RAI però, sempre al centro dell'attenzione. Viva la RAI, se starai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario RAI. Viva la RAI, che cosa giusta è con la RAI. È sempre festa, viva la RAI, coi capoccioni e gli operai. Ieri al TG1 ho intervistato Dell'Utri. Si è molto arrabbiato il senatore Pardi per questa intervista in cui Dell'Utri credo abbia parlato anche di Di Pietro. Sentite. Che cosa poi rispondo a tutti coloro che dicono bene, hanno fatto bene, tipo Di Pietro e compagni, che forse dovremmo fare altrettanto con loro. Se ci mettiamo su questo piano, noi siamo anche in grado di organizzare il tifo così come è stato fatto ieri. Ancora. Quello che è successo ieri è inaudito, semplicemente, perché è stato fatto proprio un vulnus al senso di libertà del cittadino. Io credo che cose del genere non esistano in un paese normale, non possono esistere. Questo cervello avrà un padrone, lo sai. Perché si è arrabbiato per questa intervista, lei Pardi? Come mi sono arrabbiato perché in questa maniera Dell'Utri nasconde la cosa essenziale, cioè gioca e nasconde la cosa essenziale, che lui è stato condannato due volte per contatti pericolosi con la mafia. Ma questo che c'è, si sta parlando di un'altra cosa però. Di che cosa si sta parlando? Si stava parlando dei diari di Mussolini, non di Dell'Utri, di Dell'Utri condannato, eccetera, eccetera. Vabbè, però diciamo lui ha questa caratteristica, diciamo, è un bibliofilo condannato per mafia, sì, che gioca questo ruolo del bibliofilo come una sorta di autorappresentazione falsificante. Cioè, no, però mi scusi, il ragionamento è contorto. Se si sta parlando di una cosa, è abbastanza contorto, perché se si sta parlando di una contestazione che Dell'Utri ha subito a Como, e il servizio TG1 parla di quello, non è che può parlare delle condanne di Dell'Utri. Cioè, intervista il protagonista di questa vicenda, mi sembra una roba normale. Poi lasciamo perdere, ha dato spazio, sì, secondo Dell'Utri lei. Non è un Dell'Utri non è un personaggio qualsiasi, cioè non è Pierluigi Battista che va a presentare i diari di Mussolini. No, perché leggo, lei ha affermato un pregiudicato come Dell'Utri ha minacciato il leader di un partito come Di Pietro. Che ha detto? Che minacce ci sono state? Beh, ha ha dato delle, diciamo così, si è espresso in una maniera vagamente minacciosa. Ah, vagamente minacciosa, così. Vagamente minacciosa. Siccome, nel costume mafioso le minacce vaghe sono da prendere sul serio, allora una cosa di questo tipo si va presa sul serio. Lei dice, eh? Dell'Utri è un personaggio veramente, cioè è un personaggio tale che rende imbarazzante essere senatori, capito? Se è senatore lui, io ogni tanto sento imbarazzo a essere senatore. Addirittura. Senatore Pardi, questo mi sembra un po' esagerato, francamente, o no? No, come esagerato? No, esagerato. Lei dice, siccome è senatore dell'Utri, io mi sento imbarazzato ad essere senatore. Sì, glielo dico proprio chiaramente. A parte, Pardi, proprio vogliamo rimanere alle condanne... Parlando di sentimenti umani, non politici. Cioè lei umanamente si vergogna di essere senatore perché è senatore dell'Utri? Cioè, diciamo, potrei, perché è una cosa che viene da pensare, insomma. Ah, ma è un ragionamento interessante. Non lo so, no, io sono piuttosto cinico. Dell'Utri è quello che ha portato Mangano ad Arcore. Sì, mica scherzi, era un bandito della mafia. Non è mica, è una cosa mica ce la possiamo dimenticare. No, e chi se la dimentica? E Berlusconi si è tenuto un bandito della mafia per più di 4 anni ad Arcore. Sì, e Dell'Utri è quello che ce l'ha portato. Sì, d'accordo. È una persona qualsiasi. No, io non sto dicendo che è una persona qualsiasi, è una storia molto lunga quella di Mangano, eccetera, eccetera. Però insomma, storia molto lunga, infatti è molto lunga, però anche perché è molto se lei la riduce così. Ma lei le telefonate tra Dell'Utri e Berlusconi che dicono Mangano ha messo la bomba, però una bomba molto gentile, quasi rispettosa. Ridacchiano, lì siamo in un ambiente. Siamo in un senatore Pardi, se noi estrapoliamo queste cose in questo modo, se noi riassumiamo tutta questa vicenda così, allora è evidente che ha ragione lei. Il punto è un altro. Siccome lei dice, io, siccome senatore anche dell'Utri, ogni tanto mi vergogno di essere senatore. Sì, così. No, non sono così contento di essere senatore. Vede, diventare senatore può essere il senso di un compimento di una vita, no? Io ho fatto il docente universitario, poi a un certo punto sono diventato senatore. Però arrivo e magari con questo sbagliato orgoglio, no, di partenza, sono diventato, non ce l'ho mai avuto, ma insomma diciamo avrei potuto avercelo, no? Però entro in Senato e vedo Dell'Utri, dico cavolo, se è senatore Dell'Utri forse è meglio non essere senatori. Interessante. 20:11 abbiamo la pubblicità. Senatore Pardi, la ringrazio. Senta, ma io vi saluto. Senta, ma lei va al mare lì? Vado al mare. Sempre nella stessa località, no? Sì, più o meno. Dalle parti. Domani vado a Grosseto a fare un dibattito pubblico sul governo del territorio in Toscana. Si parlerà probabilmente anche di questa storia. Forse anche della famosa autostrada. Anzi, io parlerò della autostrada. Viva l'autostrada tirrenica! Lei dica abbasso l'autostrada tirrenica. No, io non uso questi termini. Insomma, c'è un ragionamento di natura urbanistica che si può fare. Che sarei lieto di farle, naturalmente non nei microfoni, perché nessuno ci starebbe a sentire. Bravo, ha perfettamente ragione. Siamo qui 20:13 800 24 00 24. Ciro d'Alessandria, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Io volevo intervenire a proposito di Fini, visto l'intervento di Gaucci, esprimendogli la mia solidarietà e soprattutto un po' il senso di pena che mi fa a sto punto il nostro Presidente della Camera, perché in pratica ha in casa un'arrampicatrice che gli si sta arrampicando addosso, per cui mi sembra al posto suo sarebbe già che giudizio già così definitivo su Elisabetta Tulliani? Ma è così definitivo, sentendo il figlio di Gaucci, che mi sembra persona abbastanza informata su come siano andate le cose. Cioè lei dice non è il padre. Forse è il padre, allora sa, magari era parte in causa, lui possiamo vederlo più o meno come una terza parte, non ci dimentichiamo che il padre era a Santo Domingo e lui era in galera in Italia, quindi forse un minimo di distacco rispetto al padre ce l'ha e quindi una maggiore attendibilità sulla questione, quindi... mi spiace per Fini, mi spiace perché si becca una campagna mediatica violentissima e dall'altra parte purtroppo vive una situazione familiare che non deve essere favorevole, ecco. Va bene, grazie. Claudio da Brescia, buonasera. Pronto, mi sente? Sì, la sento, dica. Sì, buonasera. Allora, volevo dirle innanzitutto che io sono d'accordo con il 67% delle cose che dice lei. 67%, scusi. Sì, ma ho fatto i conti. Sì, però in trasmissione ho strappolato il tutto e ho risultato il 67%. Ma come ha fatto a fare i conti, Claudio? Ma insomma, c'è qualcosa che non torna. Perché sento tutte le sue trasmissioni e cerco di intervenire, ma è difficilissimo. È un'ora che sono al telefono. Scusi un attimo, Claudio, ma io voglio capire come è arrivato lei al 67%. Abbia pazienza. 67 perché tutte le trasmissioni che ho sentito, i suoi argomenti, io sì, no. Ho capito, quasi. Ma il calcolo poi come l'ha fatto? Si è messo là a tavolino con una calcolatrice? Sì. No, tutti i giorni ho preso nota. Ma veramente sta parlando? No, sono un pazzo, No, ho capito, no, non sarà mica un pazzo, per carità, tra la pazzia e la fissazione su alcune cose, però c'è... Comunque è già vantaggioso che sia il 67, non il 69, vabbè, adesso battutona, su. Comunque, volevo dire altre cose, poi ne sono sopraggiunte delle nuove. Mi dica quello che vuole. Allora, ascoltando il telegiornale, poi è uscita la storia lì di Mirabello, sì. Dove io sono anche andato, tra l'altro, una volta, sì. Anzi due volte sono andato. Allora, ma lei, scusi, lei non sembra chiaro come il sole, che è tutto mettere le mani avanti su questa storia, perché Fini se la sta facendo sotto ad andare pure a Mirabello. E non mi meraviglierei che in che senso se la sta facendo sotto, ci andrà Mirabello domenica, che dice, no, Claudio? Io ho quasi il dubbio che non ci andrà, perché se la fa sotto apparire in pubblico ma non esageriamo, Claudio. Guardi, io se vuol prendere nota del mio numero di telefono, io non sbaglio mai. Su questo non ci scommetto, però lei quando vuole un'opinione vedrà che io non sbaglio, perché ho indovinato che quella da Tulliani ancora prima che cominciasse a parlare i giornali, non di Montecarlo, ma del fatto che fosse avesse fotocopiato Fini, la signora, avevo scritto una lettera a Feltri, ha fotocopiato Fini, l'ha plagiato totalmente. Ah, l'ha plagiato, l'ha fotocopiato, non l'ho capito. Vabbè, sì, ho capito. Plagiato. Vabbè, Claudio, grazie. Siamo qui 20:18, 800 24 00 24 con Oliviero Bea, che ringrazio. Ciao Oliviero, ciao, buonasera. Ciao. Allora, vogliamo fare un po' il punto definitivo su questa vicenda della censura che tu hai, di cui tu hai parlato qui proprio a Radio 24 lunedì. Poi vogliamo fare il punto e virgola? Punto e virgola, facciamo punto e virgola. Allora, punto e virgola. Come diceva Totò, mettiamo punto e virgola. Ma e sì, qualche altra Totò cosa. Totò è il nostro maestro, poi è assoluto. Stato sostituito da Toto con l'Eruan ed è sparito Toto dopo il famoso raggiro. Comunque, il raggiro dell'Italia. Questo per rimanere all'attualità. Dunque, dicevo punto e virgola, perché come forse ricorderai, perché eri anche tu in trasmissione, io lunedì non ho usato il termine censura, ho detto che non mi era stato permesso di andare in onda, non ero previsto. Con questo che cosa voglio dire? Una questione di lana caprina? No. Beh, no, forse però Oliviero, scusami, io credo che tu però la parola censura l'hai utilizzata. No, se vuoi andarsi a risentire la cosa, io l'ho risentita. Sentiamo. Ho detto che ero stato estromesso. Aspetta, sentiamo. È esattamente quello di cui mi occupo io da anni, e da un paio d'anni, con un commento settimanale la domenica sul TG3 di sport e costume, insomma, in questi fatti. Devo dire, me ne occupavo perché purtroppo sono stato censurato e quindi da adesso non andrò più in onda sul TG3 con questi commenti, quindi questo mi dispiace, e quindi da ieri finis. Vabbè, toccato, mi dispiace, mi sono nella fretta espresso male, non perché io abbia paura di usare il termine censura, tutt'altro, l'ho fatto per tutta la vita, quanto perché ingenera confusione, nel senso che poi intorno alla parola censura si agitano come fantasmi una serie di elementi che non contribuiscono a fare chiarezza. Mi spiego meglio. Il fatto che io domenica scorsa non sono andato in onda è indiscutibile. Quindi voglio dire che il termine. Scusami un attimo, Oliviero. Vogliamo un po' fare a chiarezza anche per gli ascoltatori. Il punto è questo: sì. Tu con il precedente direttore, anche con l'attuale direttore del TG3, avevi un accordo, adesso non so se è scritto o no, per fare un commento la domenica. Ma posso precisarti addirittura che non era con loro, era il direttore generale della RAI, non il direttore generale X, nemmeno Y, il direttore generale come incarico impersonale, come ruolo impersonale, istituzionale, che diciamo, per ordine del giudice, per evitare querele penali, aveva trasformato in una sentenza, in un ordine appunto del direttore generale, in base al quale io venivo affidato, attribuito, appoggiato al TG3 per un commento, un editoriale, come editorialista di sport, costume, società e diritti del cittadino. Però senza un appuntamento fisso per forza la domenica, certo, o cose di questo. Ma ti risulta che io negli ultimi 2 anni, a parte la domenica, abbia fatto mai dei commenti per esempio sull'Alitalia e Toto? No, quello no, quello e perché no? Perché evidentemente hanno pensato che tutto sommato la domenica potessi fare meno danni parlando di calcio, e mi hanno lasciato come consuetudine la domenica. Quindi io sono stato, come dire, ristretto con questa scelta che io ho accettato. Sì, sì. Accettato non formalmente, nella sostanza, non mi sono proposto. Cioè tu ogni domenica facevi il commento sullo... Invece che fare durante tutta la settimana, nel senso di quando capitavo ce ne fosse stata occasione, commenti su un ospedale che si chiudeva, oppure sulle ferrovie italiane, io parlavo solo di sport collegato al costume la domenica, per un minuto, quello che era. Sì, ma lo sappiamo. Ecco, insomma. Questo si sa, perché insomma, comunque, come andava dal punto di vista degli ascolti questa roba? Che cosa ti hanno detto i direttori che hai avuto prima? Prima di Belle, e poi Bianca Berlinguer, che andavano bene, hanno criticato queste cose, com'era andata? Se l'avessero criticato si sarebbe saputo, credo che fossero addirittura entusiasti. Nel caso di Di Bella gli ascolti erano addirittura in grande spolvero per il mio commento. Nel caso della Berlinguer, siccome era lo stesso commento e nessuno mi ha detto niente, devo presumere che sia andato altrettanto bene. Ho smesso di seguire, visto che minuto per minuto si può trovare in qualunque momento, questi sono dati facilmente reperibili. Senti, però allora cosa è successo? Perché Bianca Berlinguer, in alcune cose che ha detto in questi giorni, sostiene che tu ti sei presentato, non so in che occasione, perché poi non ma tu l'hai letto il fatto di oggi? Sì, l'ho letto. Hai visto che cosa ho scritto nel fatto di oggi? Certo. Cioè, addirittura ho elencato data per data le cose che sono successe durante i mondiali, quindi smontando qualunque tipo di ricostruzione differente da quella che faccio io, perché ho testimoni e date, non posso sbagliare. Però si può dare al direttore del TG3 il diritto di scegliere chi fa i commenti e chi non li fa liberamente? È questo il punto, il direttore ha tutto il diritto e l'autonomia per decidere come vuole, ma non se la deve prendere con me. Avvisa il direttore generale che ha fatto l'ordine di servizio, o meglio, va da quello che al momento è il direttore generale, dal cui ruolo è partito questo ordine di servizio, e gli dice: questo ordine di servizio, caro direttore, per me non va più bene, perché beh, non mi piace, non mi è simpatico, non è abbastanza di sinistra, non è abbastanza di destra, non è intelligente come Cruciale, che ne so, un motivo può essere. Sì, no, certo. Però deve farlo col direttore generale, non lo può fare contro di me bandendomi senza avvisarmi, scusate, cacciarmi dallo studio perché? Però secondo te fa parte dei diritti dell'autonomia? Secondo me, cacciare le persone no, però il direttore del TG3 però può scegliere, certo, poi i modi, si può discutere sui modi. No, si può discutere, può scegliere dopo aver avvisato il direttore generale che per il cui ordine di servizio io vado in onda. Però secondo te, in linea generale, è normale che i collaboratori del direttore del TG3 li scelga il direttore generale o li scelga il direttore generale dopo una sentenza? È normale che io lavori in base alla sentenza di un giudice perché la RAI non ha eseguito 4 sentenze del giudice del lavoro? No, questo non è normale, dobbiamo risalire all'inizio. Se ti cacciano per qualche motivo. da Radio 24, che non è giusto, tu a chi ti rivolgi? A un giudice, a cosa devi fare? No, perché a me, sì, non voglio contestare tutto quanto dall'inizio, però sto dicendo che purtroppo bisogna tornare indietro per spiegare come io non sono affatto contento di andare in onda per decisione dei magistrati, un ordine di servizio dettato da una situazione di illegalità diffusa della RAI nei miei confronti. Non sono contento. Aggiungi che il caso ha voluto che io fossi giudicato dai direttori bravo, per quello che facevo, ma sarei andato in onda lo stesso se fossi stato un perfetto coglione. Che c'entra se è un ordine di servizio? E quindi vengo al tuo ragionamento, cioè l'autonomia di un direttore. Sì. Allora io ti domando, i direttori vengono nominati per concorso? No, per scelta, diciamo, politica, diciamo. Ecco, per scelta politica. Quindi io so che un direttore nominato per, che si chiami Berlinguer o qualunque altra cosa, il discorso lo vorrei fare davvero di costume, non personale, perché personale non porta niente, di personale sapete già tutto. Invece il discorso è normale che, tu mi hai chiesto se che un direttore possa o non possa decidere personalmente, certo è sacrosanto che possa decidere, se no che lo fa fare il direttore. C'è un piccolo particolare, che un direttore non viene nominato per concorso, non viene nominato dall'editore, viene nominato dal partito politico di rappresentanza, che è il suo editore. In una situazione di questo genere, in cui tutto è anormale, succede che un disgraziato che va in onda per un ordine di servizio originato dal tribunale vada bene nel suo lavoro. La domanda te la faccio io: è normale che questo qui di colpo non vada più in onda dopo 2 anni faticosi di rapporto con il pubblico senza una motivazione? Ho capito, questa cosa secondo te è ricucibile oppure tu non sarai alla ripresa? Io ricucisco volentieri con chiunque. Hai riparlato con Bianca Berlinguer? Non ho parlato, ma semplicemente mi sono limitato a contestare il fatto che io potessi aver fatto qualche cosa. L'ho detto al CDR, lo dirò formalmente al CDR, lo dirò al CDA della RAI. E sto aspettando che Ma è vero che tu raccoglievi materiale per i tuoi avvocati? Questo ma è stato... non è vero, queste sono fesserie proprio. Io ho fatto, dopo la seconda volta che sono stato cacciato, gli ho fatto una battuta del genere, ma volevo vedere chiunque nella mia situazione, perché non ti auguro di essere cacciato nella tua vita avanti negli anni nella professione come un abusivo, essendoti presentato il giorno in cui ti dovevi presentare, visto che da 2 anni una domenica era una domenica di sport. Sì, sì. Bene, e c'erano i mondiali di mezzo, era uno scherzetto. Bene, certamente in mezzo alle altre cose, mentre il vice direttore di turno mi diceva: mi dispiace, avremmo almeno potuto avvisarti stamattina di non venire, io gli ho detto: ma vedete che poi siete voi che volete far lavorare gli avvocati? Ti sembra una battuta così tremenda e tragica da rendere insanabile il rapporto fra Bea e la direzione del TG3? Peggio di te. La Berlinguer ha detto anche: io sono il direttore, decido io quando vieni, non puoi, questo l'abbiamo spiegato, io non mi faccio dettare le cose dagli avvocati. E chi è che gli ha dettato? L'avvocato, che c'entra? E poi ha detto anche è il suo direttore generale. Lei pensa, se lei avesse detto: io non mi faccio dire quello che devo fare dal mio direttore generale, quello sarebbe stato divertente. Commento sarebbe venuta una trasmissione anche più simpatica, più preparata. E poi un'altra cosa, e cos'è che ha detto? Beh, si sopravvalo, non si sopravvalo. Sì, dice che Beh si sopravvalo, e questo può essere, io non sono in grado di valutarmi, forse sono in grado di sopravvalutarmi o di sottovalutarmi. La domanda la rigirerei volentieri, ma chi è che ha, le caratteristiche per valutare qualcun altro? Chi è arrivato in un certo posto per concorso oppure un altro tipo di iter? Però la domanda finale è un'altra: si può parlare di censura oppure è semplicemente il fatto che tu non piaci al nuovo direttore del TG3? Poi lasciamo perdere, ha sbagliato, allora, perché c'è una questione da sentire. Il termine censura, come ho detto in un'intervista che sicuramente hai letto perché sei attentissimo, sul giornale di oggi, il termine censura lo voglio staccare dalla mia persona per evitare equivoci. Allora lo sostituisco con uno strano sinonimo, che poi sinonimo ovviamente non è, se non concettualmente: selvaggina. Io sono selvaggina perché, non avendo referenti politici in RAI, ma avendoli tutti contro, non avendo nessun tipo di padrinato, nessun tipo di rappresentanza politico-imprenditoriale alle spalle, è ovvio che sono un bersaglio semplice, mi difendo col mio lavoro. E quindi che succede? Che a un certo punto, se sono più debole del solito, mi fanno fuori. Allora, che mi facciano fuori perché mi vogliono far fuori, perché gli sto antipatico, che mi facciano fuori perché qualcuno... ma ci sarà un motivo, ci sarà, cioè il problema qual è? Bianca non piace Bianca Berlinguer, ho capito, ma non il motivo per cui io non vado in onda è che sono un arrogante. Beh ragazzi, quando se ne è accorto che non ero arrogante? Ultimamente mi è venuta l'arroganza senile, ma dai. Vabbè, insomma, non piace al direttore, qual è il punto? Vorrei capirlo. Ma gliel'abbiamo chiesto, non vuole parlare più, ha detto: non voglio parlare più di questa polemica. Ma è legittimo che io non piaccia al direttore, ma non è legittimo che si comporti così. Lei che cosa fa? Deve intanto mi dà forse dovrebbe avvisare i telespettatori, che da 2 anni che mi seguono la domenica, che non mi manda più in onda. Poi, cioè, che dovrebbe... e poi avvertire il direttore generale della RAI. No, ecco, il caso, ma prima di prendere una decisione del genere, avvisare il direttore generale. Uno, perché è il direttore generale. Secondo, perché c'è una, c'è una sentenza. L'ordine di servizio è firmato da lui. Bene, grazie, buonasera. Prego. Ciao, ciao Oliviero. Di Mirabello di Gianfranco Fini. Questo ci presenta la festa di Mirabello, ma noi non siamo ironici, è la realtà. L'orchestra Benny and Vivetta, come si chiama questa canzone? Ditemelo. Alibaba, naturalmente. Ancora al presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Ballaman, Edoardo Ballaman, ci risponda, parli, intervenga, se non oggi, domani, per chiarire, per scherzare con noi. L'auto blu, come l'ha usata questa auto blu? Il 7 maggio del 2008 con Lancia Tesis, Milano, con la fidanzata per la partita Padania-Tibet. Il 22 maggio Porto Buffolè, Treviso, Azzano Decino e San Vito al Tagliamento per impegni professionali. San Vito per impegni professionali, 31.5, Pontida, con fidanzate, rientro il 1 giugno. 4 settembre 2008, Campoganara, Camponogara, Venezia, casa dei genitori della fidanzata. Ma poi come hanno fatto a sapere tutti questi spostamenti con precisione? 6 settembre 2008, Camponogara a riprendere la fidanzata. 8 settembre, Porto Buffolè per impegni professionali. 9 ottobre Pasiano per impegni professionali. 14 ottobre Camponogara, cena dai genitori della fidanzata. E vabbè, ma se quello stava al Consiglio regionale a Trieste e poi si è fatto accompagnare con l'auto blu a cena dai genitori della fidanzata. 7 novembre Campo Formido per accompagnare la fidanzata al dentista. Beh, questo insomma si poteva evitare. 13 novembre Camponogara, cena dei genitori della fidanzata. 16 novembre domenica a Camponogara, non è specificato. 20 novembre Spilimbergo e Azzano Decimo per impegni professionali. 21 novembre Azzano Decimo per impegni professionali. Evidentemente impegni professionali diversi da quelli del Consiglio regionale. Questo è il 2008, con la Lancia Tesis. Più avanti le altre cose. Andrea da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, le volevo fare una domanda diretta e poi lei mi risponde, ovviamente, se ne ha voglia. Ma lì le domande in diretta è un po' complicato. Certo che deve essere la domanda diretta, diretta, sì, diretta, sì. Odia il liscio? Oggi? Lei odia il liscio? Assolutamente no, adoro il liscio. Ah, ecco, è per quello che sta mandando ripetutamente la musica. No, però mando questa musica, se lei non l'ha capito, forse io mi sono spiegato male. Perché sì. Nel programma della festa di Mirabello, della festa tricolore di Mirabello, 31 agosto 5 settembre, ogni sera dopo i dibattiti seriosi, eccetera, ci sono le musiche. Ieri c'era l'orchestra di Mister Domenico. E oggi, questa sera, musica con Benny and Vivette, ed è quello che è un po' per farvi entrare nel clima di questa festa tricolore, no? Beh, ma non, benissimo, però onestamente, magari ecco, ieri anch'io ho sorriso sentendo, sì. Mi sembrava un po' una battuta. Beh, però, ci fa piacere che lei abbia sorriso, il nostro obiettivo è farla sorridere. Ecco, no, non mi sembra che la sua trasmissione sia comica però, La mia trasmissione è del giornalismo serio. Guardi Andrea, la mia trasmissione non so definirla perché è diventata nel tempo qualcosa di diverso da quello che era all'inizio, meglio o peggio non so definirla, però è anche questo, dunque in alcuni momenti può essere anche comica. Beh, sì, in alcuni momenti, sì. Però non vada sempre sulla stessa cosa, perché le dico onestamente, la prima volta ho sorriso, la seconda volta adesso non so quante volte l'abbia citato questi gruppi, il modo soprattutto in cui l'ha citato, la seconda, terza volta iniziavo a avere un po' la bocca amara del cattivo gusto. Cattivo gusto di che? Quale cattivo gusto, ognuno... di che? Cattivo gusto di che cosa? Non ho capito. Beh, cattivo gusto è... Ha presente quei bambini che ripetono sempre, non so, la cantilena, la cosa in classe quando prendono di mira il compagno di scuola. Ma io non voglio prendere di mira, non voglio prendere di mira nessuno, cioè non è che metto queste canzoni per denigrare Fini e la festa tricolore. È un fatto o no che alla fine dei dibattiti quotidiani alla festa di Mirabello ci sia l'orchestra di Mister Domenico e stasera la musica con Bene Pivetta? È una notizia di costume, cioè c'è chi sceglie, che ne so, Pupo, non credo che ormai faccia queste cose, cioè non sicuro che non l'abbia fatta, altri citano, altri scelgono complessi di diverso tipo, e qui c'è l'orchestra Mister Domenico e la musica con Bene Pivetta. Siccome mettiamo anche della musica, mettiamo queste orchestre, qual è il problema? Va benissimo citare Cruciani, però solo una cosa: non diventi, non si trasformi in qualcosa che lei non è. Ho capito, Andrea, questo io l'ascolto da tanto tempo. È una riflessione, è una riflessione più ampia questa qua. Qui Lei sta diventando sempre più popolare come giornalista. Ma lasci perdere. Allo stesso tempo però si sta adattando ai giornalisti popolari. Non so se mi ha afferrato. Vabbè, Andrea, insomma, è una discussione che francamente non colgo, però Ma io il messaggio era diretto, non è un messaggio rivolto al pubblico, chi ci ascolta. Beh, ho capito, qui c'è anche il pubblico, però Andrea, altrimenti mi mandi una mail se lei parla qui alla radio. No, assolutamente, ma penso allora che qualcun altro la condividerà, il mio modo di pensare. Può darsi, alcuni altri sì, altri no, ma fa parte della discussione, della ultimamente vita. Ultimamente si sta adattando al giornalismo che c'è in giro. È la vita, Andrea, è la vita. La vita è fatta anche di queste cose, non è fatta solo di discorsi seriosi, da simposio, da altre cose. Ma va bene, infatti io ho apprezzato il primo intervento. Sì, ma il primo su che? Il terzo, il quarto e il quinto. Va bene, d'accordo. La trasmissione è lunga, la trasmissione è lunga. Veramente leggera. Sì, anche, no, anche ma il mio intervento, per carità, vuole essere leggero, può, vuole, può essere una anche critica leggera ma opportuna in questo caso. Può essere anche duro l'intervento, è una trasmissione che dura 2 ore e mezza ed è piena di tante cose. La ringrazio, Vincenzo dall'Aquila. Buonasera. Dica. Eccomi. Volevo intervenire sulla dichiarazione di Pardi che ha fatto prima in proposito della sua vergogna, no, per essere senatore. Sì, ha detto io mi vergogno di essere senatore perché è senatore anche dell'Utri, che francamente mi sembra una follia, però comunque. Esatto, dico è una follia. In realtà io credo che spesso i cosiddetti fra virgolette anti-berlusconiani, insomma, no, tutti quelli che si possono etichettare in questo modo, secondo me potrebbero fare degli attacchi o delle osservazioni che di base secondo me sono giuste, però ecco, esagerano nei modi e sviliscono in questo modo quello che vogliono poi dire, nel senso che giustamente lei ha osservato, vabbè, no, non esageriamo, insomma, uno non è che può essere, non può sentirsi, non può provare vergogna addirittura. Effettivamente la vergogna è un sentimento eccessivo, però di fondo è sensato che com'è possibile che noi abbiamo un senatore che su due gradi di giudizio su 3 lo hanno riconosciuto in qualche misura colpevole. Ora io ovviamente non conosco la situazione, però so che esistono delle sentenze di un tribunale della Repubblica Italiana per cui se è stato riconosciuto colpevole 2 gradi di giudizio su 3, insomma un qualcosa, diciamo un meccanismo che poi in qualche misura lo possa limitare la sua sovranità, no? Nell'essere senatore, insomma, della Repubblica ci dovrebbe essere. Ma guardi, su questo si può discutere naturalmente, è un altro discorso. Poi che facciamo? Lo stromedio, vuol dire, c'è una cosa automatica per cui alla seconda condanna in appello uno è estromesso da una carica parlamentare, e poi se uno viene assolto, che succede? No, ma se uno viene assolto, ho capito, ma intanto un tribunale, comunque, siccome voglio dire, non è che lo stiamo, non è che lo stiamo depredando dei suoi. Essere umano, insomma, no, noi gli stiamo dicendo guarda come opportunità politica, ecco, solito discorso, uno può dare una sorta di codice etico, un partito potrebbe avere un codice etico, il problema ovviamente è che poi il codice etico si fa e si disfa allo stesso momento, quindi effettivamente poi non può avere una grande efficacia, insomma, però secondo me sì, anche un grado di giudizio, 2 gradi di giudizio, secondo me dovrebbero comportare una anche, che ne so, un'espulsione dal partito e una sì, Vincenzo, si potrebbero utilizzare degli strumenti come dire, no, di autoregolamentazione all'interno dei partiti in presenza anche di condanne. Il punto è uno solo, Vincenzo, che Dell'Utri sostiene uno che è entrato in politica per difendersi dai processi, perché altrimenti sarebbe finito in galera. L'ho detto esplicitamente più volte anche qui a questi microfoni. Due, che considera questi processi una manovra politica nei suoi confronti e li considera processi ingiusti che nascono da un pregiudizio, per cui si vuole difendere fino alla fine in tutti i modi, anche entrando in Parlamento, fino a quando gli sarà possibile. Il punto è questo, Vincenzo, per cui si figuri che nel PDL si avvia una discussione sui condannati in primo grado, in secondo grado, la loro compatibilità col partito e col Parlamento. Non si aprirà mai questa discussione. Lo so, però voglio dire, uno può dire che è perseguitato politico per atti e cose che fa nella sua azione politica. No, che c'entra? Lui pensa di essere perseguitato politicamente dai magistrati. Ho capito, ma è perseguitato politicamente? No, perché le cose che gli vengono contestate risalgono anche a periodi in cui lui non era politico. No, ma no, politicamente, vabbè, ho capito, però le indagini sono partite dopo che lui era entrato in politica, lui questo sostiene, no? È evidente che sono riferite a rapporti precedenti alla sua entrata in politica, o comunque immediatamente precedenti. Allo stesso modo, per esempio, in cui si parla di diciamo protezione di scudo alle più alte cariche dello Stato, a me può stare anche bene l'idea dello scudo alle più alte cariche dello Stato, ma, ma per di fronte a delle persecuzioni, diciamo, politiche per atti che vengono compiuti nel periodo del mandato politico, ma insomma voglio dire, se io mi macchio, io politico, io primo ministro, mi macchio di un reato che possa essere spaccio di droga, che cosa ha a che fare con la politica? Cioè, se no, io faccio, però mi scusi, in presenza di cose di questo tipo è evidente che la questione non si porrebbe più, perché quando si è in presenza, che ne so, di un omicidio, di spaccio di droga, non credo che valgano le protezioni, offerte dalle leggi. Vabbè, parliamo di corruzione per la Guardia di Finanza, ma faccio un esempio, sono a caso. No, va bene, sì, va bene fare questo esempio. Voglio dire, alla fine anche lì, Vincenzo, mi scusi, tutto si basa, è inutile che insomma giriamo intorno alla questione, ognuno ha le sue idee su questo. Tutto si basa sul fatto che Berlusconi considera i suoi processi come dei processi istruiti per politicamente per distruggerlo, per metterlo da parte, per scalzarlo, eccetera. E dunque lui pensa di voler uscire definitivamente da questi processi attraverso, come sappiamo adesso, alcuni provvedimenti giudiziari. Il punto è questo: lui considera questa vicenda come una guerra dei giudici nei suoi confronti e naturalmente anche dei suoi nei confronti dei giudici. Questo è il punto. Lei potrà dire che tutto questo è una follia, una cosa che coinvolge il Parlamento, però d'accordo, posso anche essere, però vuol dire è un dato di fatto, ha capito? Cioè, non si può più ragionare una follia, è un dato di fatto, è così. Cioè, allora mi devo trovare una legge sul processo breve che effettivamente, io ora non sono tecnico, diciamo, un giurista e quindi non ho idea, però se questa legge sul processo breve taglia, tu curi i processi e dici ok, dopo 2 anni chiude il processo, così Ma questo ovviamente non so se vorranno fare così o come vorranno fare. Adesso vedremo come sarà articolato, però qui si entra nei dettagli. Tanto e vado in giro per il mondo da signore vagabondo. Sera è piena di emozioni che trasmetto con il cuore. Ma noi siamo, non lo so, felicissimi di ospitare Mister Domenico Mantovani. Buonasera. Buonasera. Dove sta? Dove si trova? So che deve andare negli studi di Canale Italia, se non sbaglio. Troppo, la sento molto lontano. Ogni volta cerchiamo di correggere questa cosa, non è possibile. La sento malissimo. Aspetti un attimo. Ho visto amori già spenti. Mi sente adesso? Mi sente? Un po' meglio, un po' meglio. Sì. Com'è andata ieri sera a Mirabello? Bellissimo. Quanta gente c'era? Affluenza abbastanza ottima, sì, abbastanza. Diciamo quante persone? Quante persone? Ma io direi che su migliaio. Su migliaio. Ma lei è un finiano? Com'è? Lei è finiano? Ma guardi, io di politica proprio di bianco, rosso e verde non mi interessa molto, perché sono un professionista, lavoro tutte le sere, nelle balere, nelle feste, quindi noi non dobbiamo guardare i colori. Non gliene frega niente. È il nostro lavoro questo qua. Certo, senta, ma se dovessimo guardare queste cose allora non lavoreremmo più. No, però qualche simpatia ce l'avrà, no? O no? Ma guardi, io sinceramente, politicamente, non voglio entrare in merito. Non vuole entrare in merito, ma Fini le sta simpatico, no? Almeno no? Come? Fini, le sta simpatico o no? Ma Fini ha fatto una sua scelta politica, secondo me ha fatto bene, perché si vede che era stanco di questi discorsi, e allora ha fatto una scelta politica sua personale che posso condividere e non condividere. Vabbè, non si vuole sbilanciare lei. No, non mi vuole sbilanciare più di tanto, io faccio il cantante. Senta, signor Mantovani, detto Mister Domenico, ma chi l'ha chiamata per la festa di Mirabello? Mi ha chiamato un altro professionista, mio collega, che si occupa di queste cose, che lui fa la programmazione tramite il comitato della festa. Della festa, ma è la prima volta che andava? No, io faccio già tre edizioni, tre o quattro, non mi ricordo più, solo tre o quattro. Della festa tricolore, Sì, sempre lì a Mirabello, sì. E poi c'è stata una polemica perché, no, doveva essere la festa del PDL, poi invece è diventata la festa dei Finiani. Veramente lì, insomma, loro sono partiti un po' titubanti, però vedo che la cosa sta prendendo piede molto bene, sinceramente. Senta, ma per cui, voglio dire, sono rimasti il fatto che ci siano queste orchestre, no? Stasera... Sì. Benny e Vivetta, se non sbaglio. Sì. Ieri lei, poi nel programma ci sarà sicuramente qualche altra cosa. L'elezione di Miss Tricolore. Sì, una orchestra grossa, Bagutti, poi ci sarà la finale con un altro. Lello, Lelli e Tatiana pure c'è. Lello, Lelli e Tatiana. Esatto. La Bagutti, eccetera. Ora, è una scelta precisa, secondo lei, di ospitare queste orchestre oppure è legata solamente al territorio? Ma perché vede, la situazione è quella che la gente, oltre che partecipare alla festa, non partecipano solamente quelli che hanno una simpatia per questi colori, una cosa. La gente si muove in queste feste e va là per mangiare, per ascoltare un po' di buona musica e per fare quattro salti. Il discorso è questo, nel paese è un evento che funziona. Per cui è un modo per attirare le persone al di là della fede politica, diciamo, no? Ma sì, è chiaro. Poi dopo c'è la parte politica, c'è la parte del spettacolo. Uno si diverte, si rilassa. Fa quattro balli così, insomma. Senta, ma che si mangia alla festa di Mirabello? Si mangia molto ma molto bene, addirittura. Sì, sì, un ristorante fornitissimo che si mangia proprio veramente bene. Che si questo mangia? Lo posso garantire. Che si mangia? Faccio un saltino che vedrà che che si mangia? Mi dica. Ma di tutto, dai tortellini in brodo che sono tipici della zona a pesce, tutto quello che c'è di più buono. Cioè, roba però della zona, del ferrarese, diciamo, no? Sì, sì, roba ferrarese, sì, è chiaro. Ma lei di dov'è, signor Domenico, lei di dov'è? Io sono in provincia di Modena. Lei della provincia di Modena, ma la sua orchestra dove si esibisce? In provincia o anche fuori dalla... La mia orchestra si sposta un po' dappertutto, dalla Romagna al Veneto, al Piemonte, cioè tutta Italia. Tutta e noi Italia. Siamo lì, in provincia di Modena. Bene, grazie, buona serata. Grazie, grazie. Lei. Mister Domenico, grazie mito, mille, mito assoluto. Grazie. Molto bella la canzone, molto bella. Canto e vado in giro per il mondo da signore vagabondo. Intanto un genio mi ha mandato un messaggio: Cruciani che difende Dell'Utri, come sei caduto in basso. Non ha capito nulla questo ascoltatore. Niente, perché non ha capito niente? Perché? Aiutatemi voi, perché? Tanta voglia spingo e canto forte, poi sul tardi m'abbasso un po'. William, provincia di Benevento, buonasera. Non c'è, Marco da Salerno. Pronto, Cruciani, buonasera. Sì, sia rapido, Marco, perché voglio chiudere. Rapidissimo, guarda, io le volevo parlare di Mirabello, di domenica, ma a me ne scappa da ridere. Perché le scappa da ridere? Mi scappa da ridere perché... Per tre buoni motivi. Prima, perché uno che si fa mettere come una fetta di salame in mezzo a un panino dalla Tugliani madre, Tugliani figlio e fratello, come fa a essere più? Una fetta di salame in mezzo al panino, addirittura. È un salamone, cioè si è fatto mettere in mezzo come un companario nel tramezzino, come le posso spiegare? Ce l'hanno fregato, secondo lei? Ma sicuramente, mi viene da ridere a pensare che cosa possa dire questo fantomatico personaggio domenica, ma che vuole che dica? Questo invece di chiamare Futura Libertà, questo movimento, poteva chiamare Circolo della Caccia, perché gli serve solo per andare a caccia di poltrone e di potere. Lei dice, lei è molto... È l'invidia di Bossi. Lei è molto drastico, con ma guardi, ingeneroso ma forse. Ma guardi, ascoltare su queste cose. Qui siamo veramente a comportamenti da mascalzoni, perché a questa gente non frega niente dell'Italia, degli italiani. Gli interessa solo coltivare il proprio orticello e trarre il massimo profitto. Questa è la verità. Bene, Marco, grazie. Mascalzoni mi sembra esagerato. Dobbiamo sparire questo. Addirittura. Lei andrebbe a contestare a Mirabello, come pare vogliano fare alcuni promotori della libertà? Ci andrebbe lei, Marco? No. No, non ci andrei mai. Che gliene frega, lei sta a Salerno. Veramente restano quelli che abbassano le tasse, che riducono i parlamentari, riducono le spese. Lo so, ma pare che il governo Berlusconi queste cose non le faccia, però. Appunto, quindi io non sono neanche per il governo Berlusconi, perché qua il più pulito c'ha la rogna, caro amico mio, come si dice a Bergamo. Bene, grazie. Marco D'Ancona, buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Dica. Innanzitutto grazie. Ieri sera abbiamo assistito a un ceparietto di una simpatia bellissima, al teatro da Edoardo. Tanto la Contessa Mazzotto è una donna di spirito, non ce la sarà presa. Perciò siete stati divertentissimi. Poi sul dottor Bea, dispiace quando un giornalista, specialmente un giornalista, che deve essere in spirito libero, perde il lavoro. Però sicuramente una riflessione dovremmo farla, penso un po' tutti. Il dottor Bea, nel suo modo di presentarsi, è sempre che si è arrabbiato con il mondo. E forse siamo un po' stanchi tutti di avere sempre questo astio, questo modo di... Ecco, era solo questo il pensiero, che sia condivisibile, non ha importanza. Bene. Mi piace comunque. Grazie. Marco Domenico da Reggio Calabria. Sì, buonasera. Dica. Io ho chiamato brevemente soltanto sentendo poco il suo dibattito con Oliverio Bea, sì, dove lui in maniera molto ferma, decisa, dice: io non ho detto censura, sì, la parola censura o altro. Cioè, io rimango sorpreso quando, e poi abbiamo riascoltato, e ha detto testualmente censura. Cioè, si tende a smentire, cioè, avendo paura, ma di che cosa? Lo so, infatti anche a me ha stupito questa cosa, perché poi è uno che di solito, insomma, non è che si nasconde. Ma voglio dire, sono dei giornalisti. Si è dimenticato di aver parlato di censura, perché effettivamente nella foga ha parlato di censura, poi si è accorto che ha fatto un po' fuori dal vaso. Voglio dire, esiste maggiormente in questo momento. Lo vediamo che ci sono dei giornalisti, ma non si può parlare. Guardi, Domenico, nel caso di Oliviero Bea e della vicenda del TG3 non si può parlare di censura, adesso non esageriamo. Grazie, Orlando da Torino. Orlando, dobbiamo andare velocissimi. Orlando. Buonasera, Cruciani. Dica. Intervengo. Sì, abbassi la radio, però abbassi il volume della radio. Ha ragione, mia colpa. Intervengo stimolato dal dibattito con Battista e Pardi. Volevo solo mettere, secondo me, un fondamentale: che è più scandaloso che ci sia un senatore con due condanne per mafia che 30 persone che lo fischiano. Cioè, proprio. Mi sembra. Orlando, lei non ha abbassato il volume della radio, però. Sì, adesso lo riabbasso, perché se no non la sento. No, non mi deve sentire al telefono quando parla. Deve chiudere il volume della sì, radio. Sì, un ritorno un po' basso, va bene. Purtroppo abbiamo sempre questo problema del ritorno. Però, Orlando, questo è benaltrismo puro. Qui non si sta parlando. Come benaltrismo? È benaltrismo, qui non si sta parlando. Era lì per fare un dibattito, perché l'hanno contestato? Perché gli hanno impedito. No, mi scusi, Orlando, nessuno nega la possibilità di contestare Dell'Utri. L'abbiamo detto chiaramente ieri, si possono fare tutte le manifestazioni, quello che uno vuole, le assicuro che c'è gente in Italia, ce n'è tanta di gente in Italia che protesta contro Dell'Utri. Il punto non è questo, c'era una manifestazione per parlare dei diari di Mussolini, e questa manifestazione non si è potuta svolgere a causa di queste proteste. La cosa è molto semplice. Non bisogna cercare altre cose. Era un unico protagonista, però, cioè non è che ci fosse un dibattito con chissà quanti luminari, ce n'era uno solo che doveva parlare. Certo, e allora qual è il problema? Quale non può parlare? Non può parlare? Ma sì, può parlare, può, e deve accettare i fischi, come chiunque. Ho capito, ma i fischi li accetta, ma bisogna anche farlo parlare a un certo punto dopo i fischi, o no? Ma non lo so, io non lo so. Dell'Utri parla tutti i giorni da telegiornali. Ma niente, non parla mai Dell'Utri, comunque. Dell'Utri non parla mai. No, Dell'Utri non parla. No, lei sbaglia, Dell'Utri non parla quasi. Dell'Utri non parla quasi mai. Dell'Utri non parla quasi mai. Dell'Utri non parla quasi mai. Non è l'intervista di Dell'Utri. Ma non è vero che tutti i giorni c'è un'intervista di Dell'Utri. Non lo sto dicendo perché devo difendere. Vede, a me non mi frega niente che sia Dell'Utri. Io difendo il diritto di Dell'Utri di parlare dei diari di Mussolini. Difendo il diritto di Dell'Utri di parlare di qualsiasi cosa. A me poi, guardi, le assicuro, non me ne frega assolutamente nulla. Non me ne frega assolutamente nulla di difendere Dell'Utri. Io non sopporto queste critiche ridicole. Quando uno mi viene a dire Dell'Utri ha dei rapporti poco limpidi, sì, può darsi. Adesso ci sarà una sentenza definitiva, ci sono già due sentenze importanti. Ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, altrimenti c'è una condanna a priori nei confronti di Dell'Utri, che non è più un essere umano e non può parlare. Questo è inaccettabile o no, Orlando? Vabbè, Dell'Utri potrà parlare in famiglia, potrà ma come parlare... in famiglia? Ma che significa? Ma in famiglia, ma chi lo vuol sentire più Dell'Utri? È uno che ha due condanne per mafia e fa le leggi per me, che pago le tasse fino all'ultimo non può parlare. Potrebbe parlare. Lei odia lei odia dell'Utri. No, io odio il fatto. No, lei odia dell'Utri, Orlando. Ma non odio sì, lei odia dell'Utri, sì, ma non riesce mi a dirlo. Mi ha rubato la fidanza. No, lei lo odia perché è dell'Utri, perché è condannato. Lei lo odia. Ma mi scusi un attimo, Cruciani, ma lei va bene un governo, un paese in cui in Parlamento c'è gente che ha due condanne per mafia e se lei fa colloquio per fare il bidello in una scuola a momenti non l'assumono? Se ci sentiamo domani, ho già sforato. Orlando, la invito domani, 800 24 00 24, ma il telefono non vale più, vale per domani alle 18:30. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non vi preoccupare!